ma io quello che dico sempre, l'ho detto 10.000 volte, non mi stancherò mai di ripetere, qualcuno mi dà ragione, qualche altro magari c'ha altre vedute, io dico che cosa l'antenna, non c'entra la potenza. Se tu c'hai un'antenna che c'ha un guadagno elevato, basta 1 watt e arrivi quanto arriva quello con 1000 watt. Se c'è un'antenna a un guadagno da 10-12 dB, questa cubica che ho io c'ha almeno sulla carta teoricamente 14 dB. Fate un conto cosa sono 14 dB, quante volte moltiplica la potenza dell'apparato. Adesso non mi ricordo la memoria, 14 dB dovrebbero essere, adesso non ho la calcolatrice, se no te l'avrei detto, mi pare circa 30 volte la potenza dell'apparato. Thank you. erano quelle due antenne parabuliche, sta dicendo. Anziché mettere i tasselli gli ho messo le graffe attaccate al palo dove c'è la mantova, non ho fatto nessuna modifica, e poi di lì ci ho inserito la multibanda. Comunque c'è qualcuno che ha dato due colpi importanti e voglio capire chi è avanti e chi vuole entrare. Questo è polacco. No, niente di praticamente, non ho saltato niente, è tutta una cosa movibile senza nessuna complicazione. Capito, la grande, guarda che vuol dire molto quello. Gianluca, è inutile che tu ti metti 1000 watt e arrivi fino a Macomer, e però non senti a nessuno, cosa me ne affutti? Infatti, capito, il bello è anche ascoltare, capito, non è tanto ricevere, cioè tanto trasmettere, tanto anche ricevere. Io ho sempre detto, è inutile che ti metti in linea l'uno i grus, e beh, e quando io l'ascolto, parlo con la Francia, da voi non entra nessuno all'impunto. Sì, infatti, è bello quando tu parli che puoi ricevere le persone, perché è giusto che, se no parli col mulo, e con chi parli? Quando tu parli, magari arrivi il capo al mondo, però il capo al mondo non ti può rispondere, cioè non lo ricevi. Sì, infatti l'impianto deve essere equilibrato sia in trasmissione che in ricezione, deve essere esattamente uguale, cioè lo stesso rapporto che tu dai a uno lo deve dare lui a parità e potenza. Infatti, è quello che ti sto dicendo, è così, ma io sono contento, guarda, nel mio piccolo ti posso dire, Robè, che sono contento. Quello che mi meraviglia, io ero convintissimo che tu ti arrivassi la bomboletta, cavoli, invece mi ci sei arrivato anche allo 3, quello che non mi fa, che mi fa dubitare, ho detto, possibile con l'antenna per certe direzioni funzioni bene, come mi hai confermato tu, per Domenico e per Mulos, che è molto più vicino di quella zona lì, arrivi con segnali molto molto più bassi in ricezione, non in trasmissione, perché in trasmissione sta arrivando 9,20, anche se mi sembra un po' troppo allegrotto quello Smithers, se li arrivo a fondo strada io è impossibile, perché segnale mio a cassa di medio è intorno ai 9,20, 9,25, arrivare ai 9,35 a Mulos, probabilmente c'è lo Smithers troppo allegro, favorevole. Ma papà, niente di strano, non sia quello. Infatti, magari ce l'ha troppo generoso, là. Ma a me ne arriva 9 più 5 adesso, in questo passaggio è 9 più 5, quando c'era gli altri giocattoli arrivava anche 9,20, 9,25, dipendeva da cosa attaccava. Però tutta questa differenza di segnale tra te e me in ricezione non riesco a capire. Ah, non saprei. Ah, vabbè, che io poi ho abbassato qua la terza monopolina per non salire lo Smith al massimo. Io lo tengo, ovviamente, come si dice, lo abbassa appena, vedi, volume, per non sbattersi lo Smith a fondo scala, capito? L'RFG in chiuso, ma che non c'aveva l'RFG in chiuso, a quel punto sì, cacchio, infatti mi sembrava troppo strano. Sì, io chiudo un po' il RPG, se no scende a fondo scala, capito? E ho paura che mi rompa lo Smithers, capito? Ma io perché arrivo a fondo scala nel tuo? Tutto aperto. Aspetta, adesso apro tutto il RPG. Prova a modulare. Hola. Prova. 1, 2, 3, prova radio. 9,30. Quindi tiene tutto aperto, non chiudere. 9,30 non è fondo scala. No, 9,30 arrivi. E allora ragazza, tu arrivi 9,40 da me. Cappa. Ma non scende di più di tanto questo smettere. Allora, fai una cosa, adesso ne sto parlando. Mettilo al minimo. Questo memorizza il segnale massimo e poi quello minimo. 1, 2, 3, prova radio. Ah, non l'hai provato? Metti, apri tutto le freghine, hai detto 9,30. Adesso chiudilo tutto a quanto arrivo. O quasi tutto, là. E chiudo tutto. E quando arrivo? Fai passaggio. Ora 1, 2, 3, prova. Capita, 9,20. 10 limiti a te, guarda, non è poco, siamo molto vicini. Ah, ecco, capito. Ah, ecco, ma adesso lo devo rimettere normale. Quello lo devi lasciare sempre aperto, non chiuderlo mai, perché se ci sono segnali deboli, non li senti. Ah, cappa, ecco qua. Allora, tutto aperto. C'è scritto RF, così c'è scritto. RF Gain. Aspetta, che forse io sto sbagliando una cosa invece, di toccare quello ho toccato un altro tasto. No, RPG era l'altro non lo vedo bene, WSH. Hai capito cosa c'è? Scusa cercando. Siccome quello c'ha anche il coso, l'indicatore di onde stazionali di Ross c'ha, SWR, così c'è scritto. Sì, esatto. No, quello serve per vedere se c'è l'estazionale, l'apparecchio c'è anche il rosmetro incorporato, devi centrarti, quando schiacci la portante, devi tutti i regoli, con quello lì c'è una posizione dove c'è un punto rosso o qualcosa del genere, dipende da che tipo di apparato hai, per dire nel pace c'è un punto rosso con disegnato una specie di otto allungato, quello lì è il punto di rosso, poi schiacci la portante e vedi quanto arriva. Ah, ecco. questo. Questo io non lo vedo qua. C'è una tacchettina rossa, metà rossa. Appunto, sino a quel punto lì devi annettere, quello è il punto di coso, di accordatura, diciamo, di regolazione dell'apparato. Cappa, e quello devo lavorarlo con la manopola così. Eia, schiacci la portante, metti in posizione SWR e giri, schiacci e lo metti a fondo scala, poi lo rimetti nell'altra posizione, lo metti in posizione e dove è la potente, in modo da arrivare sino a fondo scala oppure a quell'indicatore di lì, e poi commuti il schiacci portante, e poi commuti il tasto, lo metti in posizione SWR e ti dice la potenza, cioè la potenza, se c'è rientro di radiofrequenza, quanto c'è di rosso. Adesso vediamo. Va bene, bene. Invece l'altro era l'FGI, è tutto aperto il mio. L'FGI deve stare sempre aperto, a meno che non c'hai uno sotto casa che ti sta disturbando, per attenuarlo a quel punto là. Ok, va bene così allora. Va bene, allora lascia tutto così, al massimo, ok, va bene. Anche Mickey Gain c'ha una radio? Sì, c'è anche Mickey Gain. E quello come ce l'hai, a manetta o al minimo? O al metà? Mickey Gain c'ho tutto, non lo vedo, c'è scritto, vabbè, qua c'è tutto a manetta, esatto. Ah, va bene, guardate, che anche il microfono, c'è la regolazione di Mickey Gain, il microfono è normale, senza batteria, capito, il prof che è normale. No, già va bene, il livello di radio già va bene. Appagata. Mica, adesso quando si alza la portante non si muove neanche lo smitter. Dove non si muove lo smitter? È a fondo scala. Cosa vuol dire a fondo scala? In che posizione ce l'hai? In SWR o potenza? Potenza al massimo. Aspetta che lo regolo un po'. Aspetta, eh. Ecco, adesso si muove un po'. Scusa un attimino. Tu c'hai un unico smitter? Quanti ne hai di smitter con l'apparato? Smitter? Uno solo ne hai. Smitter sarebbe Roberto. Dove c'è la lancetta? Quanti ne hai di quegli strumentini? Uno, due o tre? Quanti ne hai? Ah, uno smitter solo. Quindi quello lì, lo stesso strumento, ti fa diverse indicazioni, ti dà la potenza e il SWR, e le stazionarie. Quindi ci dovresti avere un commutatore, tu che ti commuta da potenza a coso, a SWR, c'è un tastino qualcosa? No. E sicuro, e come cavolo fai allora a commutarla? Andate a vedere se c'è il stazionario. Tastini qua ce ne sono tre. Leggimi cosa c'è scritto. Allora, non lo vedo, sono troppo... allora, ne sono quattro i tastini, in pratica, ne ho quattro. Non li vedo, cioè, sono quattro tastini, se li abbassi vanno tutti in off. E appunto, c'avevano una funzione, magari sono dei filtri, tipo ANL, DSR, non so che tipo di filtro c'ha. Questo non te lo so dire perché, allora, adesso sono riuscito a leggerlo, RF in uno c'è. Appunto, vedi che c'è la RF, radiofrequenza. Quello lì serve per commutare in potenza, per vedere la potenza. Quando schiacci l'altro, quando ti regoli con quel tasto SVR, c'è un potenziometro SVR, così. Capa. Prima in potenza e schiacci, e ti regoli fino ad arrivare all'indicatore rosso, se c'è un punto rosso, cosa del niente. Poi metti, schiacci quel tasto, rischiacci il tasto e ti appare... La cetta che si abbassa, probabilmente se sono a posto le stazionarie, e ti dice quanto c'è di rosso. Devo abbassarla io quella levetta. È quello un commutatore, quello ti commuta da lettura diretta di potenza irradiata a potenza riflessa. RF a potenza riflessa, cioè diretta. Come schiacci quello ti indica la potenza che sta uscendo l'apparato, ti fai la regolazione con quel potenziometro, sino ad arrivare al punto dove c'è un punto di riferimento. Non so che dove ce l'abbia il punto di riferimento, poi. Quando arrivato a quel punto di lì, molli la portante e commuti l'interruttore in posizione SVR. Schiacci e vedi come si muove la lancetta, a quanto sale. Ecco. Vabbè, non lo sapevo. Adesso grosso già ci provo. Le tastiere le vanno sempre tenute sotto controllo. Io ce l'ho davanti lo strumento, a parte che ce l'ho sull'apparato, però ce l'ho strumento, il rosmetro watt, metto proprio davanti agli occhi. La prima cosa che faccio quando attacco mi dà, adesso in questo momento sono 1-2 di stazionale, e poi la potenza diretta, mi dà tutto insieme, diretta e riflesso, il doppio strumento c'è. Gappa, quello dovrei comprarlo io, ma questo ce l'ha già l'apparato, però è sempre meglio comprarlo con lo strumentino. Già costa quello, Robert. Se lo vuoi il doppio strumento, diciamo da 40-50 euro in su, ce ne sono di tutti i prezzi. Più sali e più prendi apparati evoluti. C'hanno anche, quelli un po' più evoluti, c'hanno anche il commutatore dell'antenna, cioè ci può attaccare diverse antenne, qualcuno c'ha il carico fittizio, quelli di un certo livello, ma diciamo ce ne sono tutti i prezzi. Uno semplice, quelli della ZG, che sono quelli economici, li paghi dai 40 euro in su. Se poi vuoi solo la potenza con un unico tasto e poi commuti, quelli li trovi anche a 20 euro. Ne uno io lo stesso semplice, però devi sempre ogni tanto, cioè se vuoi avere la potenza devi mettere in una posizione, se vuoi vedere, diciamo, un unico strumento, se vuoi vedere le tastonare devi commutare un altro tasto, diciamo non ce l'hai immediatamente indicata, a meno che non prendi quello con gli aghi incrociati, perché esistono anche quelli con, scusami, che ho toccato sotto, con gli aghi incrociati è lo stesso con un unico strumento, però c'ha due lancette, ma preferisco quelli a doppie, a doppio strumento io. C'è stato Rolla, facciamo entrare avanti Rolla. Sega, sempre io sono Roberto, allora io ho controllato il segnale in radio. Il segnale è solito tuo, mi fa meno di 9.20, 9.15. Il radio va bene, la solita tua turbolenta, diciamo. Sei sicuro che il segnale è sempre lo stesso? Cambia, guarda bene. Sono un po' di giorni che non ti sento, occhio e croce è più o meno lo stesso, dai. Forse appena appena di meno a memoria, dai. Arrivavi qualche punto in più, qualche, per dire, magari 9.20 pieno, adesso sei 9.15. Addirittura di meno. Così come sono, comprovo, dai. Ti ha tirato fuori 5 punti, c'è qualcuno che sta chiamando, un attimino. Avanti, chi era? Non vengo col telefono per me. Avanti, chi era che stava chiamando? Ho detto che con me hai commutato qualcosa, la voce schiacciata di tipo robotica. Tipo robotica? Sicuro, così, molto compressa. Perché questa è fatta così la voce, capito? Ma prima suonava più chiara. Più chiara, adesso non ci siamo più come voce. Guarda bene. Miglioramento come prima. Pagava. Va bene, non ho capito chi sei. Operatore Carlo, stazione Europa Mobile, direzione Alghero per lavoro. Inizio 4 corsie per me. Guarda, adesso non ti tiro fuori più, Sicuramente ti sta lontano, non ti tiro fuori più. Operatore Carlo, mi copia a me, cambio. Roger, ti copio, forte e chiaro, radio 4, Santiago 920. Appa, appa, operatore Carlo. Va bene, tutto di trabacco, diciamo, mi sembra che ci siamo sentiti anche ieri. Roger, io purtroppo ho fatto il turno ieri, il turno stamattina, stanotte rientro di notte e quindi poi ho 3 giorni smontante e libero riposo. Per fortuna, così mi dirico un po' alla radio se riesco a piazzare l'antenna sul tetto. Ciao Pagarlo, mi aveva riconosciuto Falchetto solo. Roger, Falchetto, ormai sono diversi anni che ti sento, anche se io a volte facevo solo ascolto. Ultimamente sto trasmettendo così andando a lavoro dalla macchina, solo quello. Qualche volta riesco a collegare da Alghero dove c'ho il varco e riesco a fare qualche chiacchierata fino alle 4 e 5 del mattino. Appa, appa, appa, appa. Va bene, dai, operatore caldo, Carlo, prova a rilanciarti Vela se riesci a tirarti pure. Avanti Vela. Avanti break. Buonasera a tutti, dai, Gianni Doppiorù. Ciao Gianni Doppiorù, in compagnia di Cerabela, c'era Rubi che ha fatto la divisione di bianco perché la stavo telefonando, e c'è Carlo direzione Alghero. Avanti Carlo per Gianni Doppio Ru. Buonasera Gianni, ben sentito, radio ultima, segnale idea forte 9 più 20, anche tu. E niente, io come alle solite faccio il collegamento per 5-10 minuti, poi arrivo lì, sono tu bella con Fabio. Ecco, è registrato un attimino. KK Carlo, ben sentito, cordialità. Non so se sei il vecchio Carlo di Alghero, il tic-tic. Adesso vediamo anche. Bene, Meda. Se lavora in aeroporto, forse conosce a Domenico, che lavora a Varico, una ditta di pulizia che fa le pulizie al porto. Bene, Meda. Ti ascolto anch'io bene, dai, dove sei arrivato? Ti ascolto abbastanza bene. Sembra che sei fermo di... Ti salgiamo al basso, ma la radio si fa sentire, dai. Ogni tanto ne entra uno nuovo, dai, ci fa piacere che almeno uno l'ha fatto con Perlana, dai, che sta riprendendo. Diciamo proprio l'ha fatto con Perlana, perché io passano più di 20 anni che sono la vita. Pagato, avanti chi... Mi pare che c'era prima Giuseppe. Avanti Giuseppe. Positive, ma con qualche dopo ci parlavamo fino lì. ma sentito, però con Franchetto ci siamo parlati, fino lì parlando, ho avuto risposta. Ma se riuso anche io ti ho ascoltato l'altra volta, vabbè non c'è problema, io sono contento per Franchetto, mi meraviglia perché con Muros, con Capri, lui a me arriva 9-5 Capri e lui gli arriva Santiago 3 da lui, buh, veramente. Riepiloghiamo, c'era Pierpaolo, vediamo se c'è ancora, poi fa girare per Gianni. Capo che ci sono ancora. Avanti Gianni. Io rilascio l'amico Europa, che sta andando al Ghelo, vediamo un po' se lo ascoltiamo ancora. Europa, avanti. Ai loro figli, no? E in effetti non è che li stanno, diciamo, stiamo consacrando davanti al nostro Signore, li stanno stroppiando. Ma questo è veramente un periodo assorso, quando era un periodo di Sandokan. Quanti figli hanno chiamato Sandokan, Marianna, assorso, quando c'erano quei film, quando ce n'è già? Figurati, non mi sarei voluto manco per un secondo nei panni di un povero ragazzo. Te li mai canto di giamma? No, Sandokan, vieni qui! La figlia della Malesia! Senti che hai bombe. Beh, una recita già alla radio, telefonando in nazionale, TV nazionale. Buonasera, chi sei? Come ti chiami? Ti chiamava della zona della Gallura. Naomi, no, Naomi Campus. Infatti ha detto, è un bel nome. Cazzo è poco figlio, abituati a sentire Naomi Campbell, cade Naomi Campus, sembra come la barzelletta quella, la classica sarda allo sbaraglio. Pochi di grandi interisti, quando c'era Ruben Sosa, tu ricordi tu il giocatore dell'Inter? È cappa. Ma sai quante persone conosco che si chiamano, conosco dai, per sentito dire di nome, Ruben Tulu, Ruben Sassu, Ruben Isughe. Ma quella robe però è gente malata, quei gente malata in giro che guarda, i manicomi dice che li hanno chiusi, però non lo so, c'è troppa gente, c'è troppa gente strana in giro e non è possibile che tu vuoi stroppiare tuo figlio, poveraccio, perché quando lo porti lì davanti al nostro Signore in chiesa è incapace di intendere, di volere quella povera anima. E guarda, se si potesse ribellare in quel momento con un nome così, guai. Hai detto Giade? Sì, l'ho sentito. Ma in chiesa, secondo il prete che trovi, non te lo fa battezzare se non c'è un santo di quel nome, difficilmente te lo battezza. Infatti Roberto, io avrei decisamente proibito, ma non né per gelosia né per niente, ma tu figurati adesso in chiesa il figlio di Briatore che lo chiamano il Falco, ma dai, non lo so, magari saremo noi arretrati lì, però a me mi pare che il Caglienti ci dà di capo. Ciao, ci sentiamo, buona serata, ci sentiamo ancora, dai, non so se tu mi ascolti. Giappa, salutoni, ben sentito, tutte le prossimine, buon trabacco, buon tutto, avanti per i saluti. Ehi, ciao Europa, ben sentito anche a te, per la primina, non ci sono problemi, vediamo Giuseppe, avanti Giuseppe, l'ascolti. Europa io riesco anche pio a tirarlo fuori, per la zona d'Alghero sono abbastanza aperto qui, dai. Europa è la quasi a Sant'Anna, te la metti già la canzone. Chiedi sparava da sulla chitarra, subito facciamo l'Europa di Sant'Anna, la prima canzone è l'Europa, e poi un'altra, aspetta come era, Samba Patti. E dopo la prima canzone che si faceva con la chitarra era le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi perché c'era tre accordi nel il perizoma rosso. Oh, con l'eco suona bene pure, hai visto? Sembrava un effetto da DJ. Pacche sulle cosce tue. Caro Roberto, non l'ho perso il tono da DJ, per qualche anno mi sono difeso anch'io in modulazione sulla nostra stupenda radio K. Ma vuoi dire stupenda radio? Perché lavorate in radio tu? K di positivo, avrei sentito nominare Radio US Sassari dal Prato Comunale. Gian Mario c'era, Gian Mario DJ, quello fuori di testa. Per carità, non guastarmi la serata che sto bene, dai. Quando mi ricordo quando entravo e aprivo i programmi di Gianmario il DJ number one, gli avrei tagliato l'antenna sulla testa in quel momento. Sveglia, non ricordo bene, vabbè, erano gli inizi della radio, era proprio la radio televisione, era cos'era, il figlio del padrone, cos'era? No, lui era niente, uno che hanno preso, non so nemmeno come, perché il proprietario era Sergio, il proprietario della radio, dei due campi e della discoteca. Sì, sì, no, conosco bene la situazione, ma era mezzo malato quel tipo, no? Lo prendevano in giro, ne facevano tutti i colori, cioè, la gente, la certa, non si parlava altro che di lui, io telefono a Gian Mario e lo prendiamo in giro. Tappa di positivo, però io non potevo farci niente perché lì chi dettava legge era Sergio ed era lui il proprietario e via. Anche se devo dire che poi ha cominciato a girare bene con la radio e niente, poi è andata a finire come è andata a finire, dai, va bene così. Però sono dei bei ricordi. Anche io ho una piccola esperienza, nel mio piccolo ho fatto anche un po' di attività anche io, non c'è problema, no, era bello perché era molto conosciuto, la stazione si ascoltava, non per la qualità della stazione, perché dava poche canzoni, però erano quelle di successo del momento, la gente alle dediche, c'era il programma delle dediche, lui, Gian Mario DG, Catania Risalda, ogni grezzone, però la gente l'ascoltava perché dava la telefonavi, mandami la canzone Ti amo di Umberto Tutti e te la mandava. Aveva 10 dischi e tutti quei 10 dischi le mandavano sempre, anche due volte la stessa trasmissione te le mandavano. Il numero 1 era Marco Sound The Power DG International, non dimentichiamocelo, caro Doppio Room. International The Power DG il numero 1, comunque parlando veramente, il numero 1 non è lui. E chi è? Fabrizio? Mamma mia, un altro denominato. Allora, il numero uno, quello che ha inventato la radio a Sassari, nel senso che ha insegnato a tutti i più bravi, cioè a tutti i DJ di Sassari, qualcuno ce n'è ancora in trasmissione, uno lavora a Radio Venere, non facciamo nome, e un certo Leonardo, che aveva iniziato con la radio sua e poi la radio giovane, all'inizio con la radio giovane e poi c'era Radio One International e poi ha insegnato a tutti gli altri. Cosa, Marco Sando ci conosceva molto bene, bravissima persona, ma non c'ha niente a che vedere con quel personaggio che ho nominato io, quello è un DJ, quell'altro è uno speaker di radio. DJ è quello uno che abbia anche cultura e sappia quello che sta dicendo, non solo di fesserie. Senza niente togliere a Marco, ci conosciamo bene. Grande, grande uomo di spettacolo, però quello era un professionista, l'altro era uno che lo faceva per dimentimento. Va perfettamente d'accordo al 100 con te, al 100%. Sono fatti tantissimi di coso, di DJ, ce n'è qualcuno, Valerio adesso che sta andando alla grande, il padre, vecchio, lo facciamo lui, Maurizio che non si chiama così, c'è l'altro Francesco che è uno dei grandi DJ dell'epoca di coso, di Marco e di con Leonardo che ho nominato io, e poi ce ne sono altri. Ma ne sono passati tanti, quelli che faceva più uscite di testa era quello che aveva nominato prima, Gianmario, poi tu hai nominato Fabrizio, se non andiamo oltre, sennò ci siamo a Celentano a Sorso. Diciamo il più grande DJ della storia è stato Awana Ghana K. No. RMC è stato un punto di riferimento quello. Cacchio. Ascoltami Awana Ghana. Ragazzi, non è Ghana, ma te, se no prendevamo in giro. Radio Sorso Centrale, chi so si fa a Maragana. E vabbè, comunque ce ne sono stati, per dire che ha cominciato è stato Grisceco, non è stato quello che dici tu. No, vabbè, tu stai parlando di altre cose, di lì eravamo ancora a livello di radio i Marconi, di lì faceva trasmetterla in onde medie, di lì Grisceco poi ha fatto Radio Giovane e da Radio Giovane sono passate tutte quelle persone, qualcuna che ho nominato io, il numero uno dei DJ del mondo, che dicono il più grande DJ di tutti i tempi, se si è aggiornato si chiama, ma è morto, Wolfman Jack americano, Lupo Solitario, non so se l'avete mai sentito nominare, quello è stato il numero uno dei DJ, quello fuori di testa, cioè tutto le cose che faceva, le vocine, i personaggi, quello è stato il numero uno. A Guanagana è sicuramente a livello europeo era uno dei più conosciuti perché lavorava su Radio Monte Carlo e non deve essere ascoltata in tutta Europa, però il numero uno, il padre di tutti i DJ era questo americano che è morto. Roberto, dimmi. Abbiamo lasciato in bianco Domenico un po', Ma scusate un attimino, Domenico ci sei ancora? Scusami Domenico, mi sono dimenticato di te, ti sento piccoletto, Santiago 5, vediamo se Falchetto ti ascolta un po' meglio di me, avanti Falchetto. Capa, mi ascolti Domenico? Ma anche tu stai arrivando forte e chiaro qua, Allora non esagerare che è più forte qua, nel mezzo bacio. Insomma, radio 4, no, 3-4, dai. No, io proprio in mezzo al QRM, ci sono disturbi di propagazione, poi lo sento poco. Cappa, dai, riprendi, lo per immaginare. E allora un bel argomento questo delle radio, dai. Mi è sempre appassionato, dai. No, un po' di sassa, io per vantarmi dalle radio, vi posso dire, vita e miracoli di tutte le radio, personaggi che hanno trasmesso, gente, veramente, aspetta chi era, Tony G, l'hai conosciuto già? Chi? Tony, vabbè, forse tu la radio non l'ascoltavi tu negli anni, diciamo, agli albori 78, 79, proprio all'inizio delle radio private. Beh, certo che l'ascoltavo, Vuglia. Ce n'era anche una che si chiama Radio Alternativa, non so se tu l'hai mai sentita. Sì, a Vuglia, di destra, per non sbagliare, la riconosco bene tutti quanti. E quando è iniziato con Coso, anche Posidone ha iniziato lì, dai. Lei se la ricordo. Tutti, la riconosco tutti, che poi sono passati a Radio Venere. Quelli una notte a me mi hanno raccontato che si sono chiusi dentro, che non li facevano uscire, se uscivano li picchiavano. Quando c'era il periodo Almirante e Coso, là dove era Berlinguer, si sono chiusi dentro la radio. E io le frequentavo queste radio qui, anche a Radio Venere ho frequentato, ho fatto anche qualche programmino, ma roba da poco. Qualche programma alla discoteca, così, quando c'era Steffi, ti ricordi Steffi? Sì, più o meno mi ricordo tu. Ti ricordi, no, io parlo di quelli proprio che erano molto ascoltati le trasmissioni, ti ricordi tu a Radio Giovane, a parte, vabbè, Leonardo, c'era Tony G, GGG, e c'era tanto il jingle che dava, era bellissima quella cosa, lo sacchetto. Ed è sempre Tony quello che vende i dischi, la Grishenko, lavorava la Grishenko e poi si è aperto Good Music, il negozio di dischi. E poi c'era il famoso Marchisio, lo ricordate? Bacchisio, gare, Bacchisio, sono Bacchisio. Allora sai chi è quello? I Corbicchesi. Che adesso sta lavorando, diciamo, quella è una persona che ho sempre ammirato, che non c'ha niente a che vedere con il coso della radio, però si è fatto ascoltare, ha seguito un coso, un personaggio. Esatto, adesso la domenica mattina, anche se sono un po' di settimane che non lo sento, a radio, dove c'era Radio Zero prima, su 92, che adesso c'è Radio, non so se Radio, sì, Radio Cuore, dava il focus a Salerno, ma fatto con un certo livello, non come quello di Radio del Golfo, che c'è, lo conosci quello, come si chiama, canta in Sassarete, va a far Napoli, Luciano Gallini, non l'hai mai sentito alle 11 a Radio del Golfo? Io conosco a Luciano quello che trasmette, lo conosco anche bene, di Fraia. Ce ne sono due di lì, e quello lì è tutte le domeniche, quello che dico io ti dà il programma del Focus a Sarezza alle 11, dalle 11 all'una, tutti i sabati, e in replica al mercoledì alle 11 mi sembra, no. Però viso 3 minuti di canzone e 10 minuti di pubblicità, è bello perché è proprio grezzetto, nel senso telefono da tutte le parti, proprio Sassarese, niente di tutte, non è raffinato come poteva essere il programma di Sassarese di Coso, più curato questo di Pacchisio. Ma tu non te ricordi poi il Contro Zero giornale, non se lo ricorda nessuno, a Radio Zero. Sì, io me lo ricordo. Se c'è scelto che io giravo nella radio, non ti dico perché, ma giravo un po'. Oh, Robè! Dimmi, è perché la mia amica, me la ricordate, di quella persona che c'era, di quel personaggio? Non si chiede a Robè Steffi. Ma sai che ha chiamato Giuseppe? Cos'è tu, Giuseppe? Volevo dire, io ho la settimana o due settimane fa, adesso non mi ricordo bene, e ho sentito, come si chiama, Luciano, quello di Coso, di Radio del Golfo. Sì, ce ne sono due. Ma proprio quello che fa il programma, no? E niente, stava andando così la canzone tranquillamente, senza mettersi problemi, si è aperto il microfono, no? E, ma com- molta tranquillità. Caro ascoltatore, io parlo sui brani, perché la SIAE dice così, e io parlo perché non ci si possa registrare sopra. Se a te non sta bene, puoi girare tranquillamente la manopolina e cercarti un'altra stazione. E ha continuato avanti col programma, molto deciso il giorno. Se una leggenda metropolitana non è vero assolutamente una cosa legge, loro lo fanno papavedare per fare, vabbè, è simpatico, io lo ascolto, non mi voglio rinnegare, io sono di quelli che lo ascolto quando posso, e sabato quando scendevo al mare, tutte le devo lavorare sul percorso, me lo ascoltavo sempre, non c'è niente da dire, perché ci sono belle canzoni, anche se sono molto ripetitive, molte volte sono ripetitive le canzoni, e le solite persone che telefonano, le solite persone che fanno le dediche, eccetera eccetera, non è molto varia come poteva essere quella di quella persona che ho nominato io prima, che si sentiva ogni tanto la domenica mattina a coso a ex Radio Zero, che è Radio Cuore, però è un bel programma, fa piacere. Da le conosco tutte qua, ti posso dire vita e miracoli di tutte le radio di Sassa, e dagli albori fino alle ultime che sono rimaste, all'ultima anzi, adesso è ritornata a Mondo Radio, l'ho visto, da Sassa di Radio adesso ha ripreso Mondo Radio. Sì, Sassa di Radio era bellina. Come si chiama quello di Sassa di Radio? Adesso non mi viene. Avevamo portato all'ospedale con l'ambulanza una volta. Ma dice che non esiste più quello di quello che faceva il programma in Sassarese. È agito, è morto, sì, già da qualche anno, poi aveva lasciato tutto, avevano preso l'ex DJ di Coso, Enzo, di Radio Ulide, grande radio, lo stesso Radio Ulide di Borghesi, non so se vi ricordate, sempre radio che hanno fatto la studio a Sassari. È stato un punto di riferimento e ha messo un bel chiodino ben piantato nelle nostre memorie, comunque, perlomeno io parlo nelle nostre memorie, attenzione, forse ho scantonato un po', nella mia memoria, perché mi ricordo che Radio Holiday era ascoltato un casino qui a Sassari. Sì. Guarda, io Radio Ulide ero di casa, tanti amici, c'era mio cugino, trasmetteva, ho fatto anche il provinio, a me non me ne poteva nulla, l'ho fatto solo perché me l'hanno chiesto, non mi interessava, perché facevo tutt'altro lavoro. E c'era da ammirare perché con poche risorse, proprio cose minime, riuscivano a farsi sentire discretamente, sia a livello qualitativo che soprattutto qualitativo, perché le apparecchiature erano molto vecchie, mixer ante guerra, però nel loro piccolo si facevano sentire. Ma che regali ho vinto a Radio Ulide, No, guarda, io sinceramente questo di telefonare non è che mi serve, una volta solo ho telefonato a quei balurdi, infatti me lo sono legato, che era all'inizio di TeleG, c'era la trasmissione che era collegata con Radio Giovane, e c'era un'immagine un po' sfocata, dovevi dire che cosa era. Telefono io e do la risposta, e no, adesso oggi non c'è questo coso, trovo un sacco di scuse. Allora poi dopo 5 minuti telefono a un altro, e ha vinto questo, brutti bastardi, infatti detto maledetti, e che non me ne fregava niente, però era da denunciare, ho detto cacchio, telefono io e mi dici che era chiuso la trasmissione, dopo 10 minuti chiamo un altro e lo fanno vincere, che era amico Denti. Oh, io ho vinto la lavaggi della macchina, cassattine, una torta, una volta di una pasticceria, un'altra volta, sempre a Radio Ulide. Sì, ma questa Radio Ulide ci aveva risposto, dice oggi vai al bar, ti ricordi quel bar che ti servivi? Noi andavamo sempre a mangiare, a fare colazione di lì sotto il bar che era sotto Radio Ulide, là, aspetta come si chiamava, Nino, Caffè Nino, ti ricordi di mia ragazza da Renda? Ma io Radio Ulide non li ho conosciuti a mia ragazza da Renda. Conosciuta da un'altra parte, Radio Ulide era, cioè non mi ricordo che via sia, se sia la traversa che poi porta con via Lunessone. E se la sua attraverso non mi ricordo esattamente, ma ha avuto un paio di spostamenti, però diciamo quando era in piena forza era in cosa mia piazza nera, da lì a pari al terzo piano se non sbaglio. Sopra mi pare c'è ancora il pallone d'antenna, se non l'hanno tolto. Mi dispiace che ci hanno buttato i trasmettitori, un piccato, vabbè, era roba vecchia, però li ho visti in una campagna buttati, ho detto cazzo, questi sono i trasmettitori di Radio Ulide, gli amplificatori e il pilota c'era, un peccato, hanno disfatto tutto e stanno rampando tutto. No, no, mi è dispiaciuto perché poi da lì entro c'era Elton Menia, che non so se te lo ricordi, poi è andato a Sassari Radio, che non si chiamava più Sassari Radio, si chiamava 90.7, era trasformato la radio, adesso è ripartita come Mondo Radio. C'era Radio Città, una delle più antiche, te la ricordi, Radio City Corporation, Radio Sound, vabbè quelle sono arrivate dopo, Radio Echo, Radio Oasis, non la ricordate? Radio Oasis c'aveva anche la discoteca, la telefonica. Una radio di Ghissi Brici, la radio in assoluto qualitativamente e professionalmente, che però è durata pochissimo, non so se ve la ricordate, RTF, Radio Telefinsa. Sì, già me la ricordo, ma fai girare però roba che se no si trovi, non interessa il nostro discorso, avanti per favore. E poi non c'è. E tu via. Io l'ho chiamato anche poco fa, non la risposto. Ci siamo rimasti io, tu, Falchetto e coso. E Giuseppe, avanti Giuseppe, racconta anche tu qualcosa. Che raccontare? Più di quello che è stato detto, Roberto, cavolo che tempi, ritornare indietro, guarda, a quei tempi lì sarebbe il massimo, il tempo delle nostre radio, mamma mia. Comunque, una cosa volevo dire, sicuramente, se non ricordo male, dall'inizio del discorso l'hai già accennato tu, e Radio Giovane comunque è stato un esempio, diciamo, per Sassari, per cominciare a modulare, perché lì il primo acchito, se lo vogliamo dire proprio, o Zerrago, le cose, è proprio partito da loro, da Grishenko. Allora, Grishenko, parliamo negli anni 60, quando non esistevano le televisioni private, lui aveva una trazione a onde medie, modulazione ampietta, non so che potenza utilizzasse, non mi ricordo, me l'hanno detto, e lui si faceva sentire sino a Genova, trasmetteva ogni tanto della musica, così a certe ore, e diciamo un po' pirata lo faceva, e poi piano piano, mi pare Radio Giovane sia nata nel 78, se non sbaglio, ma era la radio all'avanguardia, l'avanguardia nazionale, no, isolana, perché non ce n'erano le radio con quel tipo di qualità di radiazione, di segnale, di apparecchiature. È stata la prima radio a far conoscere gli sacchetti portati da fuori, non so se vi ricordate la Talk of Box con la BBC di Londra, tirava quei programmi internazionali, c'era la radio avanguardia all'epoca, non c'era per nessuno in Sardegna, poi è uscita prima Radiolina, un paio di anni prima, era forse l'unica radio che poteva competere, non c'era, poi sono arrivate tutte le altre, è arrivata Radio Zero, Radio Venere, eccetera eccetera, parliamo di qualità, perché tutte le altre erano a livelli casareccio, tutte di Radio Città, magari c'era prima di Radio Giovane, però erano proprio Radio Casareccio, però a livello qualitativo Radio Giovane era numero uno, poi per un certo periodo che durata era RTF, però quelli erano professionisti, dove c'era qualcuno che è andato infinito in Rai, qualcuno è andato in radio private, cioè private nazionali, parliamo, per cui stiamo parlando già di altre cose, però di radio proprio private, numero uno, number one era Radio Giovane. K di positivo, e la top the box era un programma seguitissimo. E a proposito, adesso che hai nominato Radio Zero, Roberto, ti ricordi la pubblicità? Perlomeno a me mi rimaniava Rucavo perché la davano un casino di volte al giorno. Ti ricordi per pubblicizzare il ristorante, il Don Chisciotte, che diceva quello santo, il ristoratore del Don Chisciotte ti governerà con molto gusto? Cacchio, se iniziamo a fare pubblicità uguale, c'è da scrivere un libro, ma è che quando parlate di Campbell, ti mai tirano di tutto, con Rocchetto o Pedaliera c'era sempre il detto, poi alla tarda tutto in spagnolo parlava, nel mezzo del cammino della cruzita mi ritrovai che la diretta via avrebbe smarrita e mi fermai nel Don Chisciotte della Panza da Santo, te ricordi? Quello delle camplette mi faceva morire a me dalle risate, perché io mi immaginavo il tipo che entrava nel bar, no? E sentì, buongiorno, vorrei un camplette liscio con ghiaccio, e chiedo, no, con rocchetto e pedaliera. Guarda che ha una pubblicità spettacolare, cioè proprio se ci pensi, c'è un amico mio, non so se ce l'abbia ancora, lui ci registrava tutte le domeniche alle 10, davano Contro Zero Giornale, c'era Lucio Conti, Gianni Conti, Luca Di Fronte, te li, adesso vabbè, non li nominiamo tutti, dai. Era una trasmissione da pisciare per la risata, facevano certe pigliate per il fondo alle persone, ma cose da morire, cioè adesso sarebbe inconcepibile, però erano, veramente prima ci ascoltavano la radio, tra l'altro erano i due canali di televisione, prima e secondo e poi sono arrivate le private, ma quando ascoltavi quei programmi era un piscio, una risata. Poi c'era Bacchisio, non ne parliamo di quello. Tempi memorabili quelli, dai, comunque. Oramai ci siamo qui su Sassari, ci siamo lasciati sopraffare dalla concorrenza. Adesso Radio Monte Carlo 1, 2 e 3, Radio Cuore 2, e Chitalia, come si chiama? RDS, sì, cosa tutto lo sta arrivando qui a Sassari? L'unica che è rimasta effettiva ininterrottamente era Radio Venerebo, tutti gli altri hanno mollato. Adesso ha riattaccato RSI, che era la vecchia Radio Sassari International, adesso si chiama Radio Sardegna International, però la vecchia Radio Sassari International. Però l'unica che è rimasta ininterrottamente, lo stesso c'era a Milano, dopo tanti anni, è Radio Venere. Niccolò Scuzzutti, Maurizio Postiglione, Lorena, Tiziana, Valerio, Stefania, tutti quanti li conosco. Oh Gianni? Non l'anno scorso, nel 2008 mi sembra, sì nel 2008 proprio, a dicembre 2008 la Radio Venere aveva fatto 30 anni e aveva fatto una trasmissione di 24 ore, dal giorno prima alle 24, e hanno richiamato tutti quanti i vecchi DJ, da Lorena, Tiziana, vabbè sono tutti i figli, Valerio, c'è già tutti i vecchi DJ, ma gente sposata con figli che erano 30 anni che non modulavano, e li hanno chiamati, hanno fatto una trasmissione, guarda, era uno spettacolo di sentire le vecchie voci di queste, quella che hanno nominato tu, Stefania, Miri, persone che non sanno, però cazzo, risenti la voce, aspetta, ce n'era una, Patti, non so se tu te la ricordi, lo stesso, c'erano dei personaggi, la moglie, vabbè la moglie forse è morta adesso, sì, dico, si trova ancora? Non lo so, so che era molto gelosa, perché una volta una ascoltatrice ti ha regalato i fiori e li ha schiacciati. Come si chiamava la moglie? Ricordami, non me lo ricordo più. E non me lo ricordo manco io, la moglie è proprio, no? L'ho vista poche volte. Io andavo al programma di Stefania, dai, perché stavamo cinciando. Te ricordi tre chiacchiere, un caffè, ho visto la trasmissione lì, mica era seguita da un bel di niente, cioè proprio le tardone, c'erano le persone, di una certa età, innamorate di questo programma, sempre c'era Luna Rosa, Fiocco di Nero, cioè tutti i nomi variati nei nomiglioli per farsi chiamare in radio. E Gavino Cermaestro, te lo ricordi? Gavino, dove lavorava? Gavino Cermaestro era un ascoltatore che telefonava a sé. Ah no, questa forse è un DJ, non ce l'ho presa. Ma c'era questa qua, non mi ricordo se si chiamava chi di Luna, una cosa del genere, tutti i giorni che c'era questo programma c'era sempre questa qua. Deve essere una buona di Maurizio, che poi non si chiama Maurizio. L'ho vista. Mi grasso. Ma lo conosci tu anche? C'era un bel radiofascista allora. A proposito di fascio, fascetti e fascioni, Falchetto, ci sei ancora? È Radio Popolare, te la ricordo. Vabbè, ma quella era una radio così, già, hanno durato poco, che poi era Radio Amica, è diventata, c'era Radio Amica 1, 2, 3, e ce l'aveva quello sempre di politica, roba politica, quello di, come si chiama, quello dell'Europa, è scritto Europa, come cavolo si chiama? Non mi ricordo il nome. C'è la Radio Popolare, era di sinistra, la Radio Mirrende. Radio Popolare era una radio di sinistra. Radio Amica di cos'era? Di destra. Ah, ti metto delle istituzioni europee di destra. No, cosa ho detto? Non lo ripeti, scusa. Ti ho detto, ce l'hai qualcosa delle istituzioni europee, quelli delle istituzioni europee sono tutti di destra. Come si chiama il padrone? Ricordami il nome, vaffanappa, non mi viene in mente. Vabbè, non lo dico, adesso già mi è venuto in mente, ma non lo dico perché c'è qualcuno che ascolta. Cosa stai dicendo di male? No, vabbè, lasciamo per... Che poi c'era il figlio che se ne occupava. Una volta sono andato, una volta, più di una volta. Abbiamo visto certi atteggiamenti e te ne siamo fuggiti già. Ogni cosa strana. Mirko Andis. Ehi, ha detto tu. Maledetto. Io non l'ho detto, l'hai detto tu, dai. quella di Mirko Adisla. Ebbene, era di destra lui. E allora? No, non so, io pensavo fosse di sinistra, figurati. Coso era di destra, quello che abbiamo nominato prima, che c'aveva la radio Coso, alternativa. Quello ho visto, anche la radio dove trasmetteva Giuseppe, ho visto. Vabbè, la facciamo la radio, dai. Come dicevano la informazione delle partite, così è. Un attimino per vedere se il buon Falchetto ci ha mandato a quel paese o se è ancora in radio con noi. Ah, eccolo qui. Quasi va, usciva, un centinaio di watt ci arrivava la radio WhatsApp. Hai voglia? No, eravamo abbastanza ascoltati, e Porto Torres era tutto nostro, e Sassari una bella fetta eravamo riusciti a conquistarlo, e poi un giorno che capita che ci facciamo un discorsetto in verticale, e ti posso dire anche che è venuto a romperci le scatole lì sotto, sotto la nostra postazione, perché stavamo portando via fette di mercato, però sai, e come è andata bene a loro, stava andando bene anche a noi, quindi non è... il giorno noi stavo trasmettendo anch'io e non ho capito proprio il comportamento di questa gente che è venuta sotto la torre e a far casino, vi è capito? Quindi tramite interfono e siamo riusciti ad avvisare Sergio, dopodiché lui aveva chiamato i carabinieri. Non so, purtroppo prima c'erano le guerre tra le radio, non si poteva ne vedere, c'era quello che appena sentiva uno nuovo subito tac veniva, perché ci volevano il monopolio. Ma io dico sempre, la fetta di mercato all'epoca c'era, perché come si chiama, c'era un target di spettatori, per dire, Radio Giovane aveva un certo tipo di ascoltatori, un certo tipo di persone, diciamo di qualità più selezionata, ecco, poi c'erano le radio popolari, diciamo quelle medie, e poi c'erano quelle radio Gussi, Radio Gabriani, qualche mese per chiudevano. La gente ascoltava un po' di tutto, c'erano quelli, io andavo su Radio Giovane perché era la numero uno, mi piaceva sentire certi tipi di programmi, certe qualità, mentre raramente ascoltavo quelle radio che hai nominato tu, perché sì, magari ti senti la cartone, giri e buh, ma sentire un discorso di un certo livello non lo faceva, perché era molto scarsa la qualità sia di emissione che, cioè di trasmissione, che delle persone che parlavano. Però anche quelli dicevano grossissima fetta di mercato, di spettatori che magari lo portavano a portare via a radio che aspiravano a qualcosa di più. E poi vi ricordate, adesso pensando, quella radio che c'era, no, infatti non lavorava a Radio Vene, lavorava a Radio Alfa, che era in Viale Dante, che vedevano da Alfa Lume, ve la ricordate? Dai, così Radio Alfa tu? Radio Alfa no, Alfa Lume sì. Alfa Lume, dove c'erano, questo Alfa Lume, c'erano una specie di trantella, e trasmetteva Radio Alfa, ma una marea di ascoltatori, una cosa impressionante, perché era proprio dentro in Viale Dante, di fronte, dico, hai visto quelle di quella che c'è di lì, un po' prima, di lì c'era Radio Alfa, non aveva grosse potenze, però proprio dentro città la sentivano tutti perfettamente, e c'era questa patti, questa speaker, era una simpatia, un po' anche brava parlando, proprio si faceva voler bene, era tutto l'ora l'ascoltavi questa qua, perché era, stava ore intere a parlare, proprio di quelle di compagnia, è stata una radio lo stesso che ha fatto epoca, anche se non è durata molto, poi vabbè, poi parliamo di radio un po' più scarsine, quando è uscita Radio Prisma, ve la ricordate? Sì, comunque ce n'è una che tu non conosci di radio. Ma dimmelo tu, io ti dico di sì o di no. Radio Pomponio, adesso ci aveva la radio, lo sapete. Vabbè, dai, diciamo provavi a trasmettere, dai, già l'ho saputo, l'ho anche sentito in qualche attimino, però parliamo di radio che trasmettevano registrate, eccetera, eccetera. Noi eravamo registrati, con tanto di CIA e quanto si poteva avere. Addirittura avevamo anche gli orari prestabiliti per mandare la pubblicità, quindi più registrati di così non si può. Sì, no, niente da dire. Poi, aspetta, parliamo di altre radio. C'era Radio City Corporation a Corso, che era bassissima, molto bassa, tu la sentivi di lì vicino. Poi c'era Radio Città di Porquid, quella era una radio di qualità, però per un pubblico molto anzianotto, diciamo, un target molto alto. Poi c'era, abbiamo detto, Radio Giovane, Radio Zero, parliamo con la giornata. Poi c'era Radio Sound, che sono venute dopo, Radio Ecco, Sassari Radio, sono venute tutte dopo. Vabbè, Radio Venere, no, sto passando di frequenza in frequenza. Radio Venere, Radio One International, che io ascoltavo tantissimo, che era una bellissima radio. Aspetta, chi c'è? Vabbè, c'era Radio Holiday, e vabbè, beh, sempre chi sa, Radio dei Britti, Radio Vitanova, quella dei, come cavolo si chiamano, quel gruppo che avevamo a Setta, dai, come definirla non lo saprei neanche. E poi chi c'era? Adesso non me ne vengono altre, comunque ce n'erano tantissime, poi quelle radio di Alghero qualcuno la sentivamo, questa onda stereo l'ascoltiamo ancora, una di quelle che è rimasta, Radio Lunuraghe, e poi non mi vengono altre. Radio Sintoni. Vabbè, Radio Sintoni è venuta da poco, ma di Cagliari, parliamo di Radio Isacca, poi c'è uscita Radio Internazionale, lo stesso un'ottima radio, anche se qualità di emissione molto scarsa, c'ha ottimi segnali, forti e potenti, però attrezzature molto, molto mediocri, anche se i DJ sono abbastanza bravi. Di lì ha lavorato anche Marco Sound, l'età che andava di lì, non so se te lo ricordi, già, poi non lo so, vabbè, RTF è rimasta poco, c'è Radio Antena 2000 che è arrivata da poco, anche quella, poi basta, non me ne vengo l'altro. Io c'è Pierpaolo chiamando, Pierpaolo. Questa che radio è? Radio Vitanova. No, poi c'era Radio K in Piazza d'Italia, ce l'aveva un amico mio che poi, non sai cosa avevo fatto a quello. Siccome erano una radio di ragazzi, così però era regolare, avevano tutto registrato, trasmetteva la Piazza d'Italia, dove c'era il tabacchino, l'hai visto in Piazza? No, adesso non c'è più il tabacchino. Comunque l'angolo cos'è? Via Molescott mi sembra, dove la via dove c'era Belluni, da lì con via Roma c'era quella palazzina vecchia, lì c'era Radio Chi. Un giorno una notte sono andati questi qui, li hanno preso dove c'era il mix e l'hanno buttato un baratto nei bussi, che l'hanno disintegrato il mix e da giorno hanno spento l'attività. Come non c'è più il tabacchino via Roma lì? Mi sembra di no, c'è ancora o sbaglio? Hai capito che fa l'angolo proprio Piazza d'Italia di fronte, c'era il tabacchino di lì, che faceva l'angolo, prendevi la macchina a bordo, io andavo sempre di lì, quando dovevo andare in qualche ufficio a prendere la macchina a bordo. Ma di fronte al Mar Maraviglia stai dicendo tu? Ehi, c'è ancora lì il tabacchino? Papa lì positivo, quello è un punto di riferimento, quello buttano giù il palazzo, ma quel tabacchino rimane sempre. Quello vanno a correttare i valori bollati quando devi andare in tribunale, eccetera, eccetera. Lì, allora, non lo sapevo neanche c'è la figura, comunque in quel palazzo di lì, quella via cos'è? Via Molescott, quella che adesso è chiusa al traffico. No, via Molescott è l'altra, quella lì non me lo ricordo, ma via Molescott è l'altra. È l'altra che c'è dove c'è quel bar nuovo. Che c'era Belluni, la via di Belluni, mi sbaglio se si chiama via Molescott, non insisto, però mi sembra si chiama via Molescott. Perché quella più su dove si fermava, non so se vi ricordate, il pullman della Pani, quando eravamo ragazzi noi, quella è via Bellini, mi pare. No, via Bellini è l'altra, la parallela, sì, c'è ragione, via Bellini, dove si fermava il pullman per andare a Cagliari della Pani? È a Nuoro. Vabbè, diciamo, Cagliari poi c'erano le vie intermedie, poi c'era Nuoro, Macomero, eccetera, eccetera. Ai tempi, altrimenti il Kenny già. Gianni, mi sa che stava parlando qualcuno sotto, vediamo un po' chi è l'amico. Guardate che vuole entrare. Cosa la KP2, dice che stasera è entrata. Tappa, ci siamo fatti un bel discorsetto con Gianni. Vabbè, è passata. Gianni, è passata in officina, lo sa? Vero. Oh, me l'hai descritto già, c'è Baffetti alla Itre, io non lo ricordo, cioè non lo conoscevo, è entrato, l'ho guardato, siccome è una persona, normalmente uno sto cercando, dice cosa deve fare, se è un cliente, lui si è presentato, prima c'era mio padre, io l'ho visto un attimino, mi ha detto, è il capri due, l'ho guardato in faccia, ho detto sì, le cose di Gianni non corrispondono. Io ce l'ho anche fotografia, ce l'ho fotografata a casa sua, le ho fatto la fotografia. Oh, Roberto! Sì, dimmi, comunque la persona veramente in gamba, dai, niente da dire, tanto di cappello. Avanti Giuseppe. Ecco, ci mancherebbe altro, tanto di cappello per Gianni Capri 2. Però Gianni, dopo il room ce l'ha anche in macchina la foto di Capri 2 e c'è scritto, non correre, vai piano. Addirittura. Ah, c'era il telefonino. No, vabbè, già in gamba, guarda. l'altro giorno infatti quando è venuto ho detto ma che cavolo è, tre fregate, e già rivendo, e oggi l'ho sentito dopo tanto tempo, infatti sono stato molto contento, c'era anche un attimino l'attarino, io ho acceso, qua ci ho acceso il trasmettitore da 2 ore e 10 minuti, infatti ve lo conto, 2 ore fa esatte l'ho sentito, siamo stati un quarto d'ora, 20 minuti parlando, parlando di discorsi di patenti, di radioamatori, eccetera, eccetera, ha detto che andava a mangiare e poi eventualmente ci risentivamo più tardi. Guardi, se all'ascolto, Capri, se sei all'ascolto, rientra, diamogli un secondino di bianco, avanti se ci sei. Non c'è, non deve essere stampato. Quando lui si siede a mangiare, guai. La moglie ha detto che gli piace un bel a mangiare. Cappa, figurati, o Gianni, che quando è entrato Roberto, io con Faichetto e adesso non mi ricordo, eravamo in tre comunque, e c'eravamo già una buona mezz'ora con Gianni Capri 2. E beh, ma il vero motivo perché non stava entrando non ve l'ha detto. È quello già, quello che hai detto l'altra volta. Quello di quella tipa che l'ha fatto rimanere male, così. Vabbè, il discorso è questo qua. Quelle persone che gli hanno detto, tra cui una tipa, diciamo, non diciamo particolari, operano un certo tipo di discorso, non sono persone normali, diciamo, non sono cibili, io mi immaginavo qualcuna di qualche ragazza, qualcuna di cibili, non c'entra, non c'ha niente a che vedere, si operano un certo tipo di servizio, diciamo, e forse l'hanno fatto con il battuta, gli hanno detto così, ma non ti dà fastidio ancora giocare con queste cose, e lui forse si è un po' risentito, perché gli hanno detto certe persone che lui stimava, diciamo, c'aveva della stima, però ho detto ma cosa ti naffuti e continua a fare quello che stai facendo e non ti preoccupare. E infatti sa il fatto che stasera è rientrato, addirittura la moglie mi sta dicendo Gianni Capri 2 che gli ha detto a ti svegli e rientri in radio, quello vedeva un po' triste, dai. Diciamo che per quanto siano altolocate queste persone, le maleducate sono state loro che hanno interferito nelle cose che non li riguardavano. L'hanno fatto come battuta, ma una battuta, diciamo, poco intelligente, poco... diciamo che lui è molto sensibile, io me ne sono accorto, ha un carattere molto sensibile, Capri 2, basta che tu gli dici una cosa, subito si imbrucia, sta male, capito? È fatto così, io l'ho capito. Dal giorno che siamo andati a casa sua, che la moglie praticamente voleva che venisse in pizzeria con noi, noi eravamo 3 maschi, e la moglie tette, mi vado, Deo, siete tutti 3 maschi, poi mi devo preparare, tutto quanto e non ne ho voglia, me la porti di qui la pizza, io ti prego, e qua, e là, la pregava in greco, questa cosa diceva, ma già lo so che mi vuoi, mi faceva troppo ridere. Allora, si può. Natalino, tu sì. Eia. Proprio quando stai uscendo tu, cazzo. La stazione spaziale. Aspetta, aspetta. Ecco qua. Tu quale stazione spaziale? Mi pare la giostra, la matera, la sentita di dischi volanti, autoscontro, okay. No, pensavo che fosse andata a dormire Natalie, 2 ore fa quando hai salutato, comunque sei in compagnia mia di Gianni, di Giuseppe, c'era un attimo Pierpaolo che non abbiamo più sentito, il falchetto sicuramente si è annidato nell'albero. Vediamo di nuovo Giuseppe e poi Gianni. Ciao Natalie, mi hai sentito e mi hai rientrato, avanti Gianni. Ciao Natalino, mi hai sentito e ben rientrato anche da parte mia. Ma più o meno si deve essere scocciato perché stavamo parlando sempre in radio e magari non interessava il discorso. Prego. Avanti. Ciao a tutti, qua è Carburo. Non ho fatto un controllo per piacere. Mi al Carburo, Santiago 8, Radio 4. Qua. In stazione base. Grazie mille, sto provando un apparato nuovo, quindi non so come funziona, volevo sapere se sta buffendo o no. Tu metti un po' di carburante, vedrai che fa. Vai che rulla! Però avete conosciuto il carburo già. Mi avete conosciuto, facendo esagerare sui cosi di Loratoli. Ehi, è vero. Gianni è troppo giovane, dai, non le ha conosciute queste cose. Sai che su carburante, più questo di me, cosa si dice? Sì, sì, ma l'ossigeno, c'era il gasogeno, non so se l'avete conosciuto voi. L'acetilene ci metteva il gasogeno, non il gasogeno, una specie di stufa, chiamiamola una stufa, ci metteva il carburo con l'acqua e formava questo gas, oh, era molto pericoloso, tra l'altro era molto esplosivo, e producevi l'acetilene, poi con l'ossigeno ti metteva a saldare, una cosa inconcepibile adesso, già ne sono esplosioni due di officine con queste cose. E i ragazzi prendevano i barattoli, ci mettevano un po' di carburo, un po' di acqua, tappavi e esplodeva. Facevi mai fare la barra, a parte che non c'è lo spazio per fare le cose del genere. Infatti, qui questo non c'è più di luce, ma c'è la provocazione, no? Che avanti? Tu sei Giuseppe col bip? Sì, io il bip ce l'ho, però non ero io. Non ero io. Forse è coso per Paolo magari. Proviamo, Pierpaolo, se sei tu, batti un corpo, cappa di positivo. Non ero io, e non batto. No, era molto più forte, c'era il segnale tuo, Giuseppe. Segnale mio? Infatti pensavo fossi tu, lo stesso segnale tuo. No, io no, è iniziato l'altro segnale mio qui, è iniziato l'orgamento, ragazzi. Cappa di positivo, iniziato esattamente da, sto cronometrando 47 secondi in questo momento. Non ti lasciamo in pace, io chiediamo su 40 allora, dai. Cappa, proviamo, dai, se no chiudo e se la prende in Napoli. Io tutti su 40. Ehi, dai, qualche minuto rimango, poi interrompo, andiamo su 40, dai. Niente, ragazzi. Io già ci siamo, capa. Che fa? Paolo. Te lo comprendi, caro Morie. C'è magari qualcuno che magari non sa manco che disturba. Gianni. Infatti, però è strano. E adesso non ho orologio sotto mano, ma penso che ore saranno, grosso modo, le 9? 9.25. Ma vedi, oggi è in ritardo, infatti io non ho accennato niente poco fa perché ho detto alle 8 non l'ho sentito, alle 7 non l'ho sentito, eravamo già fuori dell'orario, no? E magari l'avessi nominato poco fa, sembrava quasi che me lo avessi tirato io dentro il baracchino quel rumore. Allora, quel problema, secondo me, e me l'ha confermato anche Salvatore, siccome l'ha avuto anche lui un problema del genere, è un mouse di un computer, di quelli senza fili, che trasmettono su una frequenza molto vicina a quella dove lavoriamo noi. Qui, se lui c'ha magari uno vicino che usa il computer e c'ha il mouse senza fili, quelli che trasmettono per onde radio, può darsi che entri dentro il baracchino. È successo a Salvatore col computer del figlio. Ma scoro, io ce l'ho a casa, il mouse senza fili, a me non mi ha mai disturbo. Vabbè, ma li trasmette su una frequenza diversa, cioè sono tante di cose, come i cordesi, sono quei cordesi omologati, la stessa cosa può essere anche il mouse, ci sono quei cinesi che magari trasmettono spuria, cosa ne sai, drugia, tante cose. All'Atari gli ho fatto vedere un giocattolo, all'Atari dì cosa ti ho fatto vedere l'altro giorno, così avanti ieri in officina. E un giocattolino era. Con quello bisogna andare, infatti sabato me lo devono portare, domani sera me lo lasciano un po' di giorni. Un realizzatore di spettro con misurato del campo e tutto, con quello vai e ti vedi da dove viene il disturbo, la direzione, la frequenza, tutto quanto ti dice, le armoniche, le spurie. Fatemi, con quello farò delle prove qua, l'avevo già provato tempo fa, me l'avevano dato, per vedere come erano le radiazioni di questi giocattolini e di quelli che trasmettono, le armoniche a quanto arrivavano, eccetera. Si può fare una prova e vedere. Ma può essere sia qualche apparato elettromedicale lì, che c'ha qualcuno lì vicino, e però sì che deve fare questa roba qui e disturba Giuseppe senza saperlo, giustamente. Ma anche se lo sai, Natalia, se uno lo usa per questioni di terapia, non è che ripeti tutto. Infatti non ripetere niente, no, perché a quell'ora lui la deve fare. Però se non è, io, a me interessa sapere solo da dove sta uscendo il segnale. poi mi arrangio io. Perché? Perché se un apparecchio per fare della terapia, ciccia, non è, per l'amor di Dio, niente da dire. Però se qualche coglionata che sta andando fuori frequenza non mi sta bene a me, Natalini, hai capito? Perché non è giusto. Non è giusto. Sì, sì, è logico. Io non è che sto dicendo niente, no? No, non va bene se c'è qualche cosa che sta mandando spurie. Giuseppe? Dimmi, Ramon. Tu non c'hai niente di ricevitori a sintonia continua? Qui a casa... no. Perché prima si individua esattamente la frequenza dove c'è il disturbo, perché magari tu sei sul canale 10 e magari il canale 10 è 27.075, il disturbo magari è 27.100, 27.80, non lo so. Bisogna capire esattamente la frequenza esatta. Così poi se ti prendi un coso, un apparecchio, qualcuno che abbia un antennino, ti sposti e vedi da che direzione viene esattamente il segnale, dove con un'antennina piccolina, non di quelle a filo, magari quelle con una parabolina, tipo quelle di televisori che c'è. No, che si utilizzano a casa, che sono molto direttive, con la parabolina ti sposti e vedi da che direzione viene il segnale, per capire se per me è roba dentro il palazzo, non può essere roba da fuori, se no l'avrebbero sentito anche, non lo so, Gianni che sono abbastanza vicino e altre persone. Lo senti solo tu questo disturbo? L'ha sentito anche Savri. Chi? Savri. Appunto. Ma i servizi deve essere per forza lì nella zona loro, non può essere quello della Telecom. Se lui dice zona del Sacro Cuore, se fosse la Telecom avrebbe disturbato un sacco di gente, non solo a lui. Saverio è abbastanza vicino a lui, probabilmente sono di fronte, almeno nell'idea mia sono di fronte all'altro Saverio con coso. Così è. Saverio non è sopra Giulio già. Ehi, però Saverio sentiva basso. Magari, ma Saverio è molto in alto, per cui tu lo sai dove abita Giuseppe già. Lo sì che lo so. È in direzione molto, molto spostato verso destra, diciamo verso la Tenoce, mentre come da casa di Savilio, verso la Tenoce lui e Giuseppe o verso il ponte Rosè? Verso il ponte. Molto spostato rispetto a Savilio. Via, vicino alla bocca del proprio, si può dire. Ah, quindi allora è anche strano quel discorso lì, se lo sente Salvio, per cui non è detto che sia solo a casa di coso. Boh, a meno che non ci sia. Lì c'è avuto un ufficio postale pure lì sopra, o sbaglio, in quella zona, non c'è un ufficio postale via Pascoli. Via Bolcino. Perché lì c'è anche una trasmissione dati, lì trasmettono 24 ore su 24 quando ci sono informazioni di coso, lì trasmettono anche su frequenze diverse, magari può esserci qualche spuria o cosa del genere, perché la telefonia non credo assolutamente, perché se c'è qualche problema intervengono subito, se non invece è qualcosa dell'ufficio postale. Può essere, come può essere la banca che ho qui dentro, due vie, diciamo dietro di me io la banca di Sassari, probabile perché io penso che anche loro trasmettano anche quando la banca è chiusa. Guarda, se capita, adesso non ti garantisco niente, tanto questo apparato me lo lasciano per un po' di tempo. Se ci mettiamo d'accordo lo porto in macchina, tanto c'ho le batterie, funzionano anche a batterie. Facciamo un'analisi della zona e vediamo, cerco capire su che frequenza e poi guardiamo tutti i segnali, perché può essere anche un'armonica, questa se arriva in armonica questo. Però la cosa più strana, Robè, è che se io adesso vado sul 14, io adesso dal 40 scendo al 14, è proprio come che sia a casa sua quel segnale. Attenzione che ci sono anche questi apparati per i bambini, i baby parking, li conosci tu, quei giocattolini che ti metti dentro la stanza, che molti lavorano sul canale 14, di questi coso che insistono, quando c'è un bambino per esempio in un'altra stanza, non è un altro, ti attacchi con lui, hanno un trasmettitore pochi milliwatt, 300 milliwatt, potenze molto basse, però cacchio, se ce l'hai vicino con l'antenino ti può anche disturbare, quello ti manda, a me mi è capitato qua con il ricevitore, infatti sentivo un vicino, non so dove sia, sentivo il bambino piangendo, i genitori che parlavano, mi sono sintonizzato con il ricevitore e li sentivo, in una frequenza molto vicina a questa dove abbiamo lui. Pio! Vabbè, spiego già, io, lo sai che io sono di quelli che mi piace ascoltare, sentire tutto, anche l'impossibile, e molte volte mi giro i canali, e di lì ho sentito, adesso sono un po' che non ci vado, ma il bambino è anche cresciuto, e sentivo questi qua, tutte le voci di famiglia, e lo posso ascoltare chiunque, basta avere un ricevitore qualunque. tutti hanno perso quello si poteva sentire al telefono. Quelli sì che c'erano a divertirsi. Io non ce l'avevo ancora ricevuto, ma già ce l'aveva una persona che lo faceva permettere. Le risate le state già qualche anno fa, non adesso, perché adesso sono tutti criptati. Oh, puoi sentire ancora, se uno si vuole aggiornare puoi ancora sentire, ma ci vogliono apparecchiature, programmi sofisticati, non me la fotti nulla, cosa era sentire una telefonata degli altri, che me frega. Però noi sentivamo, cacchio, da tutte le parti, anche da Napoli, cioè segnali distanti, cioè sentivano gente che parlava da Napoli, li sentivamo qua in zona di mare, ma chiunque lo poteva sentire, non c'erano criptaggi, per cui andavi sugli 800, cosa lavoravano, mi ricordo se erano 790, adesso mi ricordo la frequenza, andavi e sentivi tutto. Io ho sentito una vicina di casa mentre stavo mettendo l'incontro alla fine che doveva dare l'esame di maturità, parlando con la professoressa. No, ma noi eravamo di lì al mare, quando c'era il ricevitore e c'era di ponti ripetitori, c'erano di Telecom, di Omnitel, non so se qual era dei due, sentivamo le telefonate, ma una dietro l'altra, tata, a fine ti spostavi, cioè sentivi 20 conversazioni diverse, ti spostavi, ma anche da Napoli, cioè segnali anche da lontano, un bel di gente di fuori, non solo di Sardi, gente anche da Napoli abbiamo sentito. Un giorno che ci contiamo, Roberto, vi racconto della telefonata che abbiamo sentito, ma c'era da pisciarsi dalle risate. Ehi, aspetta, c'è qualcuno che sta là. Chi è avanti? Che pazzo! Sì, ero io, Robeo. Vai, vai. E niente, sono sceso un attimo, sul 14 ed è un bel Santiago di 9. Allora, mi pare che quelli sono quei baby pack. Non senti nessun segnale, niente, tu? No, c'è questo coso che ha queste variazioni di tono, però non sento niente, non sento niente. A me non ci ha messo il bottone, ma è spostato, quello lì, non lo so, in realtà può essere anche come tornata lì, non ha di quella apparecchia elettromedicale, adesso non vuole andare portate, se no, ma che tu c'ha un pacemaker, rimane la portata, è un fulminecce. Ma io l'altro giorno ho provato a mandargli 300 watt, se riuscivo a farlo partire del tutto, invece niente. Viene già lì, va la parica di quelli che sono in coma farmacologico, quindi che ti attaccano tutta la strumentazione nel letto, anche dove c'è il coso delle cardiofrequenzime, eccetera, eccetera, gli vanno alla portata e gli arrivi un defibrillatore al cuore. E a me c'è una defibrillatore, un erone, che stavo cercando di cambiare il valore, ma mi sa chi chiama, che sono ancora rendimi. Ma quello, la tariffa del valvole accumulano e anche quando è spento ti pigli la corrente. E adesso gli hanno con più valvole, gli hanno la cuvia. Vabbè, adesso che magari è staccato un po' di tempo non hanno accumulato più corrente. Non è per quello, no, perché se a me mi dovesse ricapitare è pericoloso per me. Casomai mi ha defibrillato voci. E magari è stata una porta che ti ha fatto bene anche. Avanti, break. Buonasera a tutti, a Giuseppe, Roberto e a Natalino Atteggiame. Ciao Arturo, buonasera. Certo, mi sembra che sono un amico di sinistra. A me una volta la so sentire ricordi a Rosa Verde. Ero rimasto senza alimentatore, ma è più lungo, te lo do io, un alimentatore autocostruito da me. Quello sì che va bene, lo provi e vedrai esci una bomba. Quando a casa sua a Biglia Milo, a parte mi ha dato questo alimentatore, piatto si vedeva tutto il circuito, praticamente col trasformatore. Mi ha detto non ci mettere le mani qua perché se no salti, però questa è una bomba. Natalino, vuoi attaccare la presa, cacca tutte le mani nere, una scossa che mi ha dato. È una bomba mia. È copiata davvero. Ho spento la luce, si è staccata da sola, ho staccato la spina, com'era la gimbulicata, si era gimbulicata da una tarita, e beh non l'ho usata, no, adesso me ne hanno regalato uno, ti ringrazio, cazzo, lui non potrà manco provare, non l'aveva manco corretto, non so come ti ha fatto a costruirlo. Infatti, è la cosa che fa sanguinito pure a lui, non sento più nessuno, ma appunto mi aveva tagliato uno di poco. Ma lui da avevano arrestato, ti ricordi cosa aveva fatto? Che era entrato nella cosa dell'Enel, no, della Telecom, e si fosse salvato il telefono di un altro, del numero di un altro, e praticamente telefonava a spese di quello. Così da quando ha mollato una donna. E lo so, è diventato così per una delusione amorosa, già lo so. Guardi, ecco, la tariffa è sempre con maschi, così non ci sono problemi. E infatti non gira lì, ragazzi, mi sono cubito sempre. Non puoi dire, ma la stata una donna. Se la madre dice, ma la stata un maschio, dice, no, c'è problema, gli hanno venuto l'altro. Io la te avevo cominciato da Roberto. Oh, yeah, dimmi. Già, sto andando Roberto, cosa mi dici? Già. E gli hanno fatto grazie. Veramente d'accordo, Edo, però, Natalia. D'accordo, Roberto. Veramente d'accordo, Roberto. E io mi domandavo, ma... E basta chiudere gli occhi, Roberto. Non mi date delle cose bilusi a me già. No, a me buruisci. Solo che si sono gli altri tipi, non la faccia, sono dalla cosa la mattinata a Belusa, non mi piace a me. Sono tutti depilati di femmine. Vabbè dai. Oh, adesso stiamo uscendo dal camere di mezzo, dai, io vi saluto, dai. Divertitevi, continuate su questi argomenti. Dai, dai, per me è un po' tardino, domani devo fare anche cose un pochettino faticose. Vi saluto a tutti, ciao Antonio, l'ultimo arrivato, ciao Gianni, Natalino, Giuseppe, se c'è Pierpaolo e tutti gli amici eventuali in ascolto. Ciao ciao, cuoretti da parte mia. 2 ore e 32 minuti di chiamate ho fatto, dai, per oggi basta. Ciao, vabbè, buonanotte, buon tutto, alle prossime, dai, riprendi già. Se non beh, ma la crescita del bus. Vabbè, dai, ciao, buonanotte, non scappare, dai, già non diciamo più di cose porcacciose. Vabbè, ci risentiamo alle prossime, ciao ciao. Eppure, ora è una curiosità. Secondo voi c'è l'orologio attaccato all'apparecchio, il cronometro. Allora, buonanotte. Avanti Giuseppe. Appa. Ciao Robè, ci sentiamo presto e niente, buon tutto, dai. Ti lascio come eredità l'organetto che sto ascoltando qui dal portatile. Ha detto 2 giorni così. Vado a farmi 2 biscotti con la Nutella. vengo subito. Vabbè, tu devi andare a trovarla adesso. E domani già esce. Volevo uscire stasera, ma devo essere che senti Zamari, non mi ha chiamato, capito? Però io c'ho i piedi, cazzo, che non me li sento, quando alla, cazzo, ghiaccio lì, tu mi hai raggiungato un dito, cioè, manco, mi raggiungerò un tumano, andare a fare la spesa, ed è già pulito e tutto. E perché ti fanno male le spese, non ho capito, cammina da un bea. No, perché ho inchinato, cata, mamma mia, va. Tu mi dovevi vedere stamattina. Ma culo in pimpalo. Cosa? Pure Andy, pure in terra, ma cosa gatta nella roba di ghiaccio, nel cavallo. Ah, dove la terra? Ma con già l'altro, aspetta che stiamo chiamando. Ma credo che ve la ghiaccio in campagna. Perché il tempo ha migliorato. Antonio, ripeto. Gaffa. Oggi già che si stava bene, una bella giornata. Come mi ha fregato stamattina tu? Vengono a prendere la moto, visto il tempo uggioso, ho preso la macchina. E c'è pesci di risusori, 18 gradi e mezzo c'era. Gaffa, ah, facendo col motorino. Cioè che fai col motorino? Con la moto. Vabbè, chiamala come vuoi. Sì, stavo sedendo con la moto quando c'è bel tempo. Davvero? A me la fai girare un po'. E via Puglia, ha girato anche forte. E approfittarne adesso a usarla, sennò la buia tutto l'inverno rimane carraggiata e rimane sempre lì ferma. Quando ho letto il pantalone era pulitissima, sembrava che l'avessi lavata nel momento, perché io l'ho lavata prima di metterla. Solo che a volte, sai cosa succede? Che entrano sotto il telone i gatti e se ne vanno sul sedile a dormire perché sono al coperto quando piove, roba del genere, no? Ho provato a mettere anche la bottiglia con l'acqua, ma non funziona. Per quanto che non facciano danno? No, danno non ne fanno perché gli metto un aria sul sedile, mica su cumacqua. Gaffa, io la prego già, sicuro in canatata. La cosa che fanno è che fanno puzzare il piscio. Sì, per feo, E ogni volta prima di prenderla tocca passare tutto il glasses, lavarla con una bottiglia d'acqua, lavare tutta la sella. E ci dirà la mente l'odore di te? Se li sente, si sono calcolati a buonino buco. Con quella grida da mangiare non si mettono mai sulla macchina, non la c'è più durante la macchina, non la c'è più. Ma sai che l'altro giorno a 160 ha preso un cielo, l'ho disintegrato. Se ne portiamo a cui, vedrai che cazzo non ce ne saranno più nella zona. Si è alzato al volo l'antalino, si è alzato la gruscia, si bizzono i mani, non so se fosse uno storno che così, si è alzato in volo, così ha fatto, cazzo, e mi si è proprio messo davanti della moto, non ce l'ho fatta scartare, ma per esempio la beta, non si è fatto il millimetro. E un grido, è stato Falchetto, Cristo! Buonissimo! Falchetto è contento perché arriva forte a coso, domenico. È contento perché arrivo qua, è contento solo che arrivo bene. Contento? Cappa. Meglio così Falchetto. Cazzo, mi stavo cercando, io sul 10 non c'era nessuno. Perché è entrato per rumore a Giuseppe e quindi abbiamo girato. Già lo sai che facciamo così ogni sera? Ma rumore. Gappa, ciao Luca. E Giuseppe dopo perché? Fa vedere dei miei sogni. No. No, qua, ma chi l'aveva? Mi stavo andando su parte. Luca? Ciao Lu, prova a passare sul 14 e dimmi se senti il suo... sottofondo il più piccolo rumore che possa assomigliarsi a questo. Ulu, aspetta un attimo. Ciao Antonio, ciao Giuseppe, ciao Natalino, ciao Pera, ciao a tutti comunque, dai. Ciao Luca e tutta le prossime. Ciao ciao, buonanotte. La parte mia. Ciao ciao, Falchetto carissimo. Alle prossime. Ciao Falche, bravo. Falche, buono. Poi una curiosità, Falche. Ma perché ogni tanto si sente pam, pam? Come pam, pam? Come che stai toccando qualcosa, telefonino o qualcosa. Ah, e c'ho il telefono da sotto, è vero. Ah, cappa, ok, adesso capito. Sembrava uno di quei portatili di MPR, come c'ho io, dai. Cappa, cappa, no, no, niente di preoccupante, c'è il telefonino sotto l'apparato e magari quando raglia le onde si sente papà. Ma cappa. Cappa. Giuseppe, non ti preoccupare, dai. Verrai che tre, tre mano che sono chiuso è lì e boh, quello lì quando è non vedo da lì va, quello lì ti toglie il segnale fuori, dove è tutto giusto. Lo so, ma figurati che poco fa sul 40 ce l'avevo libero, no? Come canale, adesso pian pianino sta entrando anche qua. Ma non è fatto di oro. Diciamo che anche se lo sento è sopportabile, dai. Quello è poco ma sicuro. Sin quando poi non mi scoccio e spengo. Non è, ci vuole poco, guarda, ho la monopolina qui dell'apparato. Do mezzo giretto a sinistra e sparisce il rumore una volta per tutte. Non ti preoccupare, già se ci si riesce lo stesso a modulare, in una maniera o nell'altra ci si riesce lo stesso. Ma, lo più rondo? Via, dicami. E te se sei pagato? Nuda, nuda, evruite. Taciturno, mannaggia. E allora ragazzi, tutto ok? No, in questa postazione è negativo. Negativo. Cavo, cavo, cavo. Avanti Antonio. Cappa. Andiamo di Giuseppe, girete, girete. Girete, girete, ti hai fatto. Invece giretti li ho fatti, però adesso bisogna solo aspettare, però ripeto, se si riesce a procurare con la storia lì si fa tamburo battente senza stare lì a perdere tempo e via, perché anche se ti fai giri molta gente ti dice sì e da voi lo fanno o non lo fanno? Hai ragione, capo. Bisogna trovarlo. Sì, bisogna provarlo perché io non posso stare ogni volta che accendo questo coso con il al minimo rumore di mamma mia casa, eccolo, eccolo, ero meravigliato poco fa, perché oltretutto stasera è iniziato anche più tardi del solito. La tremoletta ti viene Giuseppe quando entra. Ma sai come ti penetra nel cervello quel rumore lì, Gianni? Ma l'hai sentito dal portatile che cos'era? Sì, che l'ho sentito io fuori. Ho già l'idea di che rumore si tratti. Avanti. La di paro c'è anche a casa nostra. Il di che tio? Un fruscio strano, si intende. Ma non riusciamo a durare. Addirittura. Va a fargli ascoltare attentamente quel fruscio, che cos'è? Aspetta che vado a registrarlo. Cappa. E mi pare che anche l'altro giorno tuo babbo sentiva lo stesso disturbo che sto sentendo io, mannaggia. Tu dimmi, loro sono qua sul 40, sono qua sul 40. Ma no, lo sanno. Ma capo che stavo parlando. Positivo, Giuseppe lo sente forte e chiaro. Anch'io lo sento benissimo, Pierpaolo, non c'è problema. Ma è perché loro ti sentono alla grande. Capito, tu cos'è? No, ti sentono alla grande. Ascolti, che gli mando questo rumore che sta arrivando a me adesso, è da 35 minuti che non riesco a sentire più niente io. Allora, loro ti abbiamo ascoltato, aspetta che mi manda il rumore. Via. Urbani, ascolti. Antonio. Vai, manda il rumore. Ma poi a vedere se si sente. Negativo, non so se sente me, qui niente, negativo. negativo, sento proprio un leggero fruscio, niente di più Gianni. Già io sto chiudendo, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, anche a quelli che ascoltano, là. Quello è chi per me, alle prossime. Ciao Natali, buonanotte. Avanti Falchetto. Falchetto è andato a dormire da poco fa Gianni. Ciao Natali, ci sentiamo, buon tutto e alle prossime. Chi è rimasto? Ciao buonanotte Natalino. Ce la risentiamo alle prossimine. Gamma, avanti l'amica, cosa stavi dicendo? Già chiudendo, va bene, ciao, un bacione, ci sentiamo. Salutami anche quello che c'è vicino a te. Ciao, ciao, ci sentiamo, avanti Giuseppe. No, qui proprio niente. Zero e riporto zero. Eppure Porto Torres, quelle zone lì, guarda, le becco in pieno. Ma probabilmente non era Porto Torres, non fu Tiamed, era da un'altra parte, non era Porto Torres, era molto più lontano. Non è quello il problema. Non ci interessano quelle storie lì, se si entra bisogna essere belli, tranquilli, leali e divertirsi. Dopodiché anch'io posso dire che sto trasmettendo da Macomerre quando tu sono qui. Non è quello il problema, dai. E avanti Pierpaolo, senti a me. Avanti Antonio per Pierpaolo. Senti un pochino a che punto è con quel rumore. Oh, mi senti, ha detto Giuseppe, come sei con quel rumore? Senti. Per talmente voce che non intendeva cantoni. Boh, che strano. E a me, ma avete avuto sentito? Ma a me si è chiamato da tu. Sto chiamando ad Aderio, ho detto a che punto sei con quel rumore. A che punto sono? Siete d'accordo, andiamo sul 45, non ci sta problema. Adesso Giuseppe, se siamo d'accordo andiamo sul 45. Ho provato a se mi sento, vai, ma dovevo sentire anche dopo il 42. Gappa, vai. Primo, ci sono già io qua. Attenzione, canaletta 45. Io ci sono. Li senti adesso? Siamo tutti qui. Per Paolo non ci sente lo stesso. Avanti il doppio VIP, Vela. Avanti, siamo tutto orecchie e pelose per te. No, mi senti? Via, vai a sentire, ma no, il problema dovrebbe essere risolto. Via, Giuseppe. Cappa di positivo, forte e chiaro qua. Cappa adesso ti sento, comunque mi ruba parecchio segnale, a me arriva Santiago 2. Nonostante tutto, guarda, che siamo passati sul 45, il mio rumore è ancora, e ce l'ho ancora. Anch'io sono sistemato bene. Si sente il portatile. Tappa, si sente forte e chiaro. Questo è un altro tono, però. Santiago 3. Eccolo lì probabilmente come ti splattera. riceve il segnale di splatter, boh. Attento quando ti arriva, anche tu lo senti il rumore, Antonio? Ma che tipo? Niente, poco qua si è appena, ma adesso no. E allora della base di Pierpaolo, c'è la cacchi amplificatore d'antenna. Se la piglia è luce, se la piglia. Ma le cacchi di nuovo viene fede a busta. Ma lo sapessi, Giuseppe ce l'avevo ancora. Giuseppe, ancora c'era il segnale. È positivo, il mio di disturbo c'è sempre, K. Cavolo, ma senti che Giuseppe per fare. Vediamo Pierpa se coincide, se si decide a smettere questo segnale con il tuo. Il tuo. Capo, boh. No, beh, io sto... Scusate, ma se te la rispondo perché... Non lo so, ma anch'io sto cercando di individuare il punto più forte. Ma Capo. Ultimamente stanno veramente girando le palle. Kappa, mi avvicino un attimo in cucina, sto arrivando subito e faccio una prova. Una prova. Kappa. Mangione. Proprio lui. Eia. E oggi, trabaccato. E me la vuoi. Kappa. Io ritiro, ho fatto tutti i bomboloni oggi. Quando mi hai chiamato il tuo Antu, ho visto il posto di blocco da lontano, ho fatto in tempo a metterci il telefono e mi vedo la paletta, cazzo. Se mi beccavano col telefono, io pensavo mi avessero visto, invece no. Per provare a chiamare la Recce, perché tu devi far curva, tu devi prendere e schiacciare il tappo di su, dopo che risponde, vai in viva voce. Ma se io ce l'ho il viva voce il furgone, ce l'ho il viva voce ma non lo uso mai, perché se poi mi chiamano quando io sono dal furgone, non li sento, e quindi è un casino. No, c'è il cellulare stesso. Ma non è la stessa cosa. Il viva voce che c'ho io si sente forte. Come c'entra? Se ti allontani dal furgone deve sculare il cellulare. Vabbè, ma se sono lontano non lo sento. Ogni volta tocca smontare il telefono, lo prendo, lo prendo presso. Ma il tuo la voce come funziona? Ma come funziona? Come funziona il tuo, funziona il mio. Ma devi connetterti, è vero? No, basta premere il tasto e basta. E funziona. Come vuoi fare il problema? Da nessuna parte, solo che non ti sento, quando sono in furgone non ti sento col viva voce, è bassa, capito? Non è fortissima, invece col viva voce che c'ho attaccato al portacenere, come tu lo metti dentro il telefono che tu rispondi, tu lo metti dentro ti fa una ti va di una voce. C'è praticamente una specie di microfonio che attacca, una roba del genere. Diciamo di sì. Io credevo che era connessione Bluetooth. No. Ho capito come. Ma ti sta addormentando, ti vedo un pochettino giù. Sono un po' muggio sono. Ho lavorato parecchio anche stasera. Io non lo so, mi fa male tutto quanto dietro nella cuscia. La parte di dietro lì e i polpacci, quando succede così mi vengono i crampi di notte e mi sveglio gridando. Io sono stato la mara, e cos'è? Dire che ti dice, loro sedersi una cosa, dire che ti dire, loro sedersi una fila, e così mi si sono filati i muscoli. Ragazzi, ho capito. Praticamente ci sono... succede, ogni tanto pure io qualche dolorino ce l'ho. Beh, infatti, ma sono cose sopportabilissime, là. che era rimasto oltre noi tre. Ma Giuseppe, poi no, non c'era rimasto il nostro nessuno. Avanti Pierpa. Giuseppe, dove è finito in questo momento, vai? No, da me sempre Santiago Nove. Dove è finito il moto adesso? Aspetta, ti faccio sentire il mio, così ti fai le orecchie. Sino al 40. Dal 31 sino al 40. Cappa. Negli altri no, niente. Come arrivo al 21 già si sente, ve lo porto su andando aumentando sino al 40. Quindi manco io so che cosa sia questa, perché cosa di questi bimbi non mi sembra e non ci credo perché assolutamente no. Cosa di computer non credo. Trasferimento dati l'abbiamo eliminato stasera perché trasmettendo dati se si trasmettono si trasmette a quell'ora e via. E qualcuno che vuole giocare. Io al gioco ci sto. Però ci deve stare anche lui al gioco con me poi, perché io se gioco poi gioco di a maniera mia. Tu hai detto devi cercare qualcuno con radio cognometro, lo fai beccare e così la smetti una volta per tutte, vai. Ma se la smette io dico a sul fumato se ne piglia però questo te lo può garantire Giuseppe qui al 100%. Guarda, se fossero cose così tipo quelle radioline come hai detto tu o cose del genere ci vuole poco, ci sarebbe bastato poco, bisognerebbe soltanto trovare uno con lì rosso e vedrai che lo smetti subito. Cappa. Ma ho l'impressione comunque a me nessuno mi toglie dalla testa che anche con il rilevatore di campo, come cavolo si chiama quella cosa, sicuramente non è qui, non è da qui che parte il segnale. Qui arriva, io sono sicuro che lo sento in pieno qui, però non parte da qui quel segnale. Ma guarda, si potrebbe fare una prova, fare una direttiva, portare il drone, giustamente tu hai rilevato che sia il più giusto, se è lì in zona, glielo buttiamo addosso, gli spariamo un paio di kilowatt e vedrai che se è lì salta fuori. Cappa di positivo, anche perché io mi sono preparato qui una bella prolunga e posso spostare l'apparato sino alla finestra della cucina. Ho misurato anche tutte le stazionarie con la prolunga attaccata ed è tutto quanto perfetto. Quindi se riusciamo a procurare anche questa direttiva dalla finestra di cucina la possiamo puntare dove vogliamo. Non c'è problema, no, quello lì già si può fare in diversa maniera. E se si tratta, aspetta un attimo, se si tratta, sì, allora ti spiego, io ci ho per Sassari e lì c'è il Dream House, è vero perché io ho sentito Roberto prima, quando eravate su 10, Roberto che ti ha detto che potrebbe essere roba di basso, e per il basso entra un parecchio, soprattutto come io passo in zona di ufficio e cose li sento ben forti, anche alcuni sono fortissimi, però aspetto un attimino, ecco qua, però quello ha un cambio di tonalità e non ne ho mai sentito così, perché quello fa, lo sai come fa il mouse, fa Cappa, questo è un qualcosa studiato secondo me proprio per cioè per stancarti, hai capito? E una tonalità così strana, non lo so, manco io ti dico la verità, non l'ho mai sentita. E l'ho fatta sentire, come ti ho detto, anche a diversi tecnici stamattina e anche loro e non mi hanno dato una spiegazione, però. È un po' anomalo, soprattutto il cambio di tonalità che c'ha. Cappa. e qui io che cosa pensare, avessi avuto un minimo sospetto, un minimo cosa, ti avrei detto, beh, è questo o è quello, cioè una cosa è sicura, che non è che posso andare giù e staccare i contattori a uno della gente e sentire se questo rumore passa, mi hai capito? Lo so per qua, ma non sono cose belle, perché ti ripeto, io se lo trovo e so che è fatto così in buona fede, senza nessun coso, cioè ci si può ragionare, ma se so appena che la cosa è fatta, per metterti un attimino il bastone tra le ruote, guarda, non ce n'è per nessuno. Ascolta, facciamo una prova, tu domani, tanto quello che succede alle 8 di sera, vero? Oggi è iniziato tardi, oggi è iniziato che erano alle 9, 9 e mezzo. Tanto meglio, ascolta, siccome ho giù una ricevitore che segna anche la più piccola frequenza, vedi se riusciamo a stabilire la frequenza esatta, perché allora il ricevitore, ti spiego, capta un quello segnale, che però se non sono segnali, per esempio se va sulla 27 è mega segnale, pulito, se non è pulito non prende altro niente, e magari si può vedere se invece è su un'altra frequenza e mi batte su quell'altra frequenza. Ti ho capito Virta, se vogliamo provare proviamo, io per uscirne da questa situazione qui sono disposto a tutto. Lo sai cosa è che scanalizzare se lo stesso, perché può darsi che ribalta, ti spiego, forse mi sono spiegato un po' male, perché potrebbe essere che ribalta sulla 27, ma il segnale esca da un'altra tipo di frequenza che emana spurie, per vedere se c'è in un'altra frequenza lo stesso segnale, perché se esce da un altro tipo di frequenza, che per esempio, prendiamo per buono adesso che sia un ripetitore che abbia qualche guasto e manda delle spurie, per dire, non qualcosa così, per dire, un ripetitore che batte sui 900 MHz e manda spurie alla 27 e becca il canale, dal canale 14 il punto più forte dove si intromette. Allora bisognerebbe sapere che il canale 14 per esempio è 27 27.115 mi pare, se non sbaglio, Quindi voglio vedere se quello stesso segnale è ripetuto in un'altra frequenza, lo segnale, ci vuole qualche ora, ci vuole scrivere tutto, K di positivo, non c'è problema, anche perché qui io non so adesso che ore siano, però lui è bello, presente, forte e a fondo scala. Perché tu che c'hai l'antenna grande lì, possiamo attaccare questo ricevitore all'antenna grande che becca il più minimo del segnale e quindi potrebbe beccarlo più facilmente. Il punto, se è ribattuto da un'altra frequenza, possiamo sapere che, perché insomma, intanto il mio ricevitore scanalizza anche quelle di frequenza. K, non c'è sta problema. Io l'unica cosa che dico è che stasera è tardi e lui c'è, perché prima alle 8, massimo 8 e un quarto, 8 e mezza, spariva questa storia qui. E stasera c'è alla grande e c'è già un bel po', un paio d'ore. E l'unica cosa è cercare con lo scanner se ribatte in qualche altra frequenza, tanto il loro genitore bisogna pensare che ti contribuiva aiuta, ma bisogna porre la recensione dei segnali, della pressione dei calcini, venirne a capo di questa storia qui. Roberto mi stava dicendo che gli dovrebbero prestare un... Antonio se lo ricorda che cos'è, Antonio. Se lo rispetto. Roberto. È proprio un coro. Ti dice il minimo punto a un particolare. Sicuramente in settimana ce l'ha, vediamo un pochino se riusciamo a cavare i piedi. Buono, allora si è a posto, dai. Se in settimana ce l'ha, vi mettete d'accordo, magari vi scambiate il numero di telefono e tu gli dici, appena che c'è il rumore, intanto dura tantissimo, appena che c'è il rumore lo chiami, lui arriva, se intanto sicuramente sarà quelle valigette portatile. Se capita poi ci sentiamo e lo vediamo assieme, dai, poi se sali tu a me fa piacere. L'analizzatore di spettro, insomma, non è facile facile, ma se l'ha usato quello che l'ha detto, lo sa usare o se lo fa prestare solo? Questo non lo so se lo sa usare, non l'ho sentito, Pierpa. E so che questo suo amico glielo deve prestare. Sto dicendo bene, Antonio? Ma sì, glielo deve prestare. Adesso facciamo un sopralluogo e vediamo se riusciamo a trovarla questo qua. Beh, se ti ha detto che se lo facciamo prestare, evidentemente lo sa anche usare. Perché guarda, io ogni volta che rilasci la portante rientra questo rumore, no? Perché come parlate lo coprite, come mollate la portante, cazzo, ce l'ho sempre qui. Mamma mia, cara, cazzo, mi pigliano di male, davvero, Ieri, no, addirittura è salito pure il segnale, perché mi sembra che mi ha detto ieri che sono 41, non ti dava fastidio. Non lo sentivo, anzi no, sul 40 ero ieri e non lo sentivo. Stasera invece è scavato anche 40. Sì, adesso sono sul 45 e lo sento. E tu che non mi hai davvero un culo? Bella e buona. Bella e buona perché io posso capire su altre frecce, cioè, ma siamo abbastanza in alto. Aspetta, provo a fare una prova e provo a salire un altro pochino, Pierpa, a vedere com'è. Vai su a 10 su, vai. Sempre. Pierpa. Niente, sull'F non lo prendo per niente. Cioè, ma sei andato, ti sei spostato di 5 gradi più su? No, mi sono spostato, sono andato direttamente, io adesso sono sulla E. E mi sono spostato sulla F poco fa e ho tutti i canali liberi. E 10 su sei andato, sì. Come 10 su? Ma che apparato stai usando? 9. Metti in F, cioè, no, in E. In E, e vai 5 canali più su. Cioè da qua dove sei, spostati 5 canali, metti 10. Ma disegni, hola, hola, hola, hola. Giuseppe, se ne sei uscito, con l'apparato non si distrigge. Ripeto. Sento Giuseppe, se ci sei sono un vicino al fondo. Ora, ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Giuseppe. Capogobo. Sento Peppinello, ci sei. Paolo? Paolo? Sì, dimmi. sono sul 5 e sul portatile, senti. Non è che ci sono, scusami, era 5 e sul portatilino. Cioè, sai, io credo che... Cioè, Pierpa, io dico questo, o Gianni o Antonio, ma voi mettetevi un attimo nei panni, sono 2 ore e mezzo con questo rumore nelle orecchie. Cosa devo fare? Io ti confesso, Giuseppe, che l'incuffia mi ha assordato. Figurati io che qui ce l'ho proprio dal vivo, cioè che cosa devo fare? Ma il bello che non è a dire ti metti un'antenna che riceve meno per il momento e cosa, perché lo ricevi anche col portatile, e quindi qualsiasi antenna metti sia allo stesso punto. E poi la cosa più bella che è anche tardi, lui c'è invece prima, 8:30 già cominciava a essere un orario accettabile, a meno che non ha sentito, e dalle 8:30 in poi dice spostiamo il timer e lo mettiamo a quell'ora lì il disturbo. No, è che domani è sabato e non si lavora. Lo so, chi non lavora, Gianni. Però, non so manco io cosa dirti. Giuseppe. Avanti. Quello che non mi convince è che... Aspetta, sposto il cornice. Quello che non mi convince è il perché... Se fino a ieri notte, sia il 40 del 41, non c'era, perché stanotte c'è più qualcosa? Questo non lo so. Devo essere sincero. Però aspetta un attimino che forse ho una buona notizia per me e per voi. Aspetta appena. Non c'è più. Aspetta che vado sul dito a vedere se si sente ancora quel attimino qua, È un bel casino, Allora Gianni, adesso sul portatile sono sul 27125, che sarebbe il 14 che vedo nel baracchino, diciamo, ufficiale, no? E niente, tutto a posto, Santiago, niente, quindi segnale niente, e QRM0. Ha smesso adesso, perché abbiamo detto che era sabato, domani, quindi ha smesso. No, ho messo perché adesso ci deve aggiungere magari il canale di disturbo, perché non ce la facciamo più arrivare qua. È probabile, sì. A questo punto allora non mi convince, perché, cioè, se non può essere che la sera prima hai provato anche altre serie, se hai parlato 40 e 41, non c'era. Adesso magicamente avrò oltre 45 pure stasera, che cazzo, cioè, allora non coincide più, dai, cazzo, allora se il disturbo c'è e rimaneva fisso, rimaneva, non è già detto, è l'uno, fino a che cosa era, ma era il pare che mi ha detto 35-36, non lo sentivo, appena sul 40 non lo sentivo più. Adesso magicamente stasera oltrepassare anche il 40, e che come è possibile? Oh, Pierpa, ieri siamo arrivati sul 40 e sul 41 e abbiamo modulato tranquillamente, senza nessun problema. Ma è appunto, cioè, se non è che il disturbo adesso si è protratto ancora per... magicamente che stasera, ieri sera, hai parlato sul 40 e 41, non è che il disturbo, se fosse un qualcosa di fisso, che va sempre fisso, è perché parlavi o sul 10, sul 20, quello che dico anch'io, ma io mi ricordo anche le parole di Doppio Rum quando Antonio è andato a cercarli dicendogli che io ero sul 40 perché avevo quel disturbo. Anche Doppio Rum ha detto: allora se sul 40 quel disturbo non ce l'hai, ci trasferiamo tutti quanti, lasciamo perdere il 10 e ci trasferiamo sul 40. Non mi sto ricordando male io? No Giuseppe, hai ragione. Io magari sarò rincoglionito, non mi ricorderò di tante cose, tutto quello che vuoi, però le cose che mi interessano me le ricordo molto bene. Molto bene. Eppure non riesco a spiegarmi che tipo di apparecchiatura possa essere così. Magari sarà qualche apparecchiatura fatta artigianalmente lì, Pierpa. Non è che per forza di cose può essere un'apparecchiatura, diciamo, che ne so, un elettrodomestico, una qualsiasi stupidata. Può essere fatta anche una cosa artigianale che, niente, ti manda quel segnale lì. Apposta per disturbare. Cappa. Siccome io l'amico qui ce l'ho abbastanza vicino. E lui sente anche quello che si dice qui in radio, no? E dopodiché lui si regola in conseguenza. Di conseguenza, no? Però poi, mi auguro che non sia, e mi auguro che mi stia ascoltando in questo momento, perché io quella cosa in ferro gliela faccio arrivare sino alle tonsille. Questo è poco ma sicuro. Non sappiamo con chi prendersela, se non siamo sicuri che cosa è. No, cioè, il discorso che ti ho fatto, hai sentito quello che ho detto, non può essere se una cosa così per caso, che un disturbo che succede per caso, non può essere che un'altra sera ce l'hai fino al 35, 37, 38, un piccolo laboratorio su in via Grazia Deledda, poi di altro no. Di altro muratori, che carpentiere, compagnia bella. Compagnia bella. Capa, quindi non c'è neanche nessuno. Qualche giocherellone che magari ha delle apparecchiature che ti sente e tipo MacGyver, qualche cosa autocostruita, perché portante non sembra che ne abbia, così non è sì che tu portante anche debole, non ha uno stacco importante. No, no, perché se fosse stata portante a quest'ora avrei visto già, a parte tutto, anche l'incendio, perché dopo quasi 3 ore di portante sfiderei chiunque apparato a rimanere sempre così fisso. Ti senti un po', è un'idea un po' bizzarra, ma a casa tu hai sempre le stesse cose, giusto? In questo momento, cioè in questo momento, e già da un po' è tutto spento. Ma senti, a me è così, è un'idea un po' così, l'apparecchiatura, dico, il computer è sempre la stessa cosa, tutto uguale. Ma è mio? Della tua roba, sì. Sì, ma il computer è spento. Ascolta, e tu hai provato a staccarti il contattore? Ma io lo potrei anche fare, il problema non ce n'è, Pierpa. Però io, ti ripeto, quando esco di casa con il portatile lo sento. E qui a casa è tutto spento, proprio tutto. No, tu fai una cosa, prova a fare una cosa. Quando senti questo rumore, la prima cosa che fai è stacca direttamente il contattore, staccati la corrente e guarda se continua. Non posso fare, cioè problemi non me ne dà fare quell'operazione lì, ma non trovo un senso, cioè se qui a casa è tutto staccato, televisioni spente, lavatrice spenta, cioè tutto spento, pompe di calore spente, posso provare, non mi costa niente. Guarda, non si riusciva a capire fino all'altro giorno che era beccato Antonio, che cosa era, non si riusciva a capire perché fra noi due c'era una giornata bestiale, perché Antonio non andasse a fondo scala, da me che è possibile, non si riusciva a capire perché, e guarda un po' che era un cavo dell'antenna che dava tutto questo disturbo, un cavo dell'antenna TV. Lo so, ma come possono essere anche le antenne che ci sono sul tetto, Pierpa? Quantificate sono quelle antenne? Non lo so, questo non te lo so dire. Si sa, ci sono amplificate. Ci vedevi? Non so, Pierpa, so che ci sono diverse paraboliche sul tetto, antenne qui del palazzo che ho qui a fianco a me, quello sì, però che siano amplificati o no, non lo so. Perché addirittura potrebbe essere magari che a un certo momento accendano una televisione che hanno in una camera particolare, che l'accendono meno delle altre, l'accendono a una certa ora. Qui cambia tuli per pa, non può essere, solitamente il rumore quando c'è un ronzio, una cosa, però non cambia tono. Non cambia tono, sto facendo tutto un discorso particolare, perché sai, bisogna pensare un po' tutte, però io la stasera non mi coglie semplicemente questo affare che ha cambiato posizione di frequenza. Quindi sto facendo un discorso perché insomma le pensi un po' tutte, però adesso tornare indietro che ti c'è ragione già. Non può essere in caso che una sera più tra anche ti trasferisci di canale e cose più due fate quattro. Quattro. Pagato. È un disturbo che non è una cosa normale. Un disturbo normale ti fa un ronzio. E posso anche capirlo, un fischio. Ma questa qua cambia tono. È quello che c'è. Sembra quasi che giustino su un clarif, una cosa del genere. Capito? Come ho detto poco fa, di autocostruito, che si è adatto per creare questo disturbo qui. Quindi più che un tecnico, un qualcuno non lo può fare. Magari qualcosa che per noi sembra di una difficoltà estrema, magari per un tecnico prende uno o due componenti, gli fa due saldature così, con quattro pezzi di filo e via. Eccolo, può essere. Qua ci vuole qualcuno che sia esperto in queste cose. Bisogna beccare qualcuno. Io l'ho trovato l'altro giorno, però mi ha salutato, l'ho lampeggiato col furgone per far male, invece mi ha salutato e mi sento dritto. Ma dice che Roberto glielo procura. Se lo procura che lo sa usare bene, perché bisogna anche saperlo usare quello strumento. Io credo se si ha detto che se lo può prestare, evidentemente lo sa anche usare, calcolando che ha lavorato anche in radio si adoperano anche, non so se adoperava lui, ma c'è l'analizzato di spettro, c'è in radio. Chissà, chi lo sa. È capace che quando vai a analizzare non si fa più sentire, quindi non dite in radio niente. No, ma magari lui non dice niente in radio, quando lui sa che c'è Roberto, si mette la coma e si scambia il numero del telefono, magari lo chiama, guarda, si mette la coma, guarda, questa è serie, bomba. Dipende dall'orario che glielo fa, capito? Se glielo fa alle 11 di notte non è che Roberto si muove. Vabbè, vediamo un po' come si può organizzare la situazione. Quando li metti il ferro in bocca ci voglio essere anch'io. Ah sì, quello è sicuro, quello è sicuro, perché ti sto dicendo che si è fatto con scopo. Io dico che gli auguro di campare 100 anni, casi per ricordarsi dello spavento che prende. Pure puoi fare anche un'altra cosa, Giuseppe. Tipo. Ti metti d'accordo, un telefono, come parte nuovo, e tu parti senza dire niente, lo prendi, prendi Roberto con l'apparecchiatura e Anche, ma per quello già ci si può organizzare bene. E l'importante è riuscire a trovare questa benedetta strumentazione. Oppure quel tipo là, quel Vittorio, se riusciamo a trovare il numero di telefono, gli pago anche il coso, non è quello, non sarà quello il problema. E basta che se ne venga a capo da questa storia qui. Però sempre fermo restando che ci vuole una persona capace, perché è inutile che io abbia l'analizzatore quando poi mi sembra lì, no aspetta, mi sembra là, mi sembra su o mi sembra giù. No, se non è capace lui di usarlo, fregatene che glielo so usare io. Capo, allora lì bisogna organizzarci per bene. Perché se si procura questo benedetto aggeggio, bisogna sfruttarlo al massimo. Sì, se lui ci ha dato rispetto, ma io penso che se l'ha chiesto a qualche amico, evidentemente che lo sa usare, mica prende la cosa che non lo sa usare. Io non l'ho sentito, non lo so, ma chiedo, ma penso che lo sappia usare. Se lo chiede, vuol dire che lo sa usare. Ma poi non c'è problema, se non lo sa usare, se tanto è lì 7 e mezza di sera fino a che ora si potrà per le 9, così già ci sono io, non c'è problema. Se è di sabato sera è ancora meglio, che noi ci siamo tutti. K di positivo, tanto sono sicuro che domani c'è lo stesso, però domani non faccio lo stesso sbaglio che ho fatto oggi, perché va, credimi, ho un mal di testa che la metà mi batterebbe. Cosa vuoi fare per fare? A me piace anche stare un po' in compagnia e ti scambi quattro chiacchiere e tutte cose, mi hai capito? È che molte volte lo faccio anche per una questione di puntiglia, no? Cercando di far finta che non mi dia fastidio questo rumore qui e invece poi alla fine sono io che crollo. La sua detrazione con quel rumore non è che una cosa buona. Giuseppe, io ti capisco perché io sono lì bomba e lo sai benissimo che io ne ho ancora e quello è peggio, mi disturbo qua, so chi è, però anche tu sai chi sono. Se scatto adesso vediamo un pochino, se riusciamo a cavarne i piedi con quella storia lì è bene, se no qualcosa faremo in una maniera o nell'altra. Dai, cosa ne dite voi domani a Trabacco? Io sì, molto ancora ti dico, molto ancora su questo disturbatore che ho io. Adesso ho deciso di fare un'altra cosa, così se invece riesco posto antenne, metto antenne quella perché ci vogliono un sacco di cose e ho deciso che faccio lo voglio portare in tribunale, e faccio una guerra. Sì, almeno tu sai chi è, anch'io l'avessi saputo che a quest'ora guarda, lui avrebbe avuto già 18 carte bollate sotto il culo stanotte. Adesso se faccio questo però è chiaro che dovrò togliere tutto, lasciare un baracchino normale e dopodiché lo quello, proprio quello, lo porto in tribunale. Vediamo se faccio spendere un po' di soldi agli avvocati. K di positivo, è la cosa, guarda, più giusta che si può fare, perché sopporta, poi alla fine ci arriva sempre al limite. Poi probabilmente non è tutto solo al fuori di quello, non sono sicuro, ma ce ne sono anche altre due che riescono a poi fare questa cosa. Ho aperto altre due persone, ma comunque quei due se ne può fare anche un'altra cosa. K di positivo, Pierpa. L'importante è che almeno tu riesci a cavarne i piedi. Io adesso vedo, io ce la metto tutta e speriamo bene. Vabbè, dai, vediamo una maniera o l'altra di sistemare tutte le cose, almeno quel rumorino lì. Per questo c'è ancora tempo per pensare. Va bene, detto ciò è fatto ciò. Ci aggiorniamo tutto domani. Vi saluto, buonanotte. Buonanotte Gianni, buonanotte Giuseppe e ci riascoltiamo tutto domani, dai. Io sono in frequenza domani mattina, devo viaggiare perché si va a fare un carico, quindi è abbastanza presto. Ci riascoltiamo tutto domani, dai. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, che bel pace, sentiamo, dai. K di positivo, Pierpa, buonanotte e ci sentiamo presto, dai, avanti bombolo. K, te, buonanotte a tutti, anche la parte mia, che domani le attacchito, anche devo andare a un carico. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao Anto, buonanotte. Buonanotte. Già, che facciamo? Andiamo a rilassarci anche noi. Ma io sono abbastanza rilassato, sono già riaggucato. Anda bene meda, tu hai la possibilità di stare, no, ma modulare così non riuscirei, perché effettivamente mi addormenterei subito. E niente, dai, io adesso stacco un attimo le batterie da qui e vedo un pochino di riposarmi le orecchie. Cavalla, buonanotte. E non mi saggia, si trova il sistema. Cappa di positivo. Ciao Gianni, serena notte anche a te e buon trabacco per domani. Dai, ce la risentiamo presto. Ciao Gianni. Ciao, ciao, ciao, grazie Giuseppe. Buonanotte a tutti, anche ai residui più buoni in ascolto.